Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Qual è il primo suono che sei tornato a sentire grazie ad Amplifon? Vittorio? Eccolo! Eccola qua! Eccola! Saluta un po' sta manica dei froci! Dì che sono quattro froci questi! Siete quattro froci! Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, ma no? Ma venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci! Cruciani, non chiamarmi più, se chiedi gente come Gottardo, non chiamarmi più, questa testa di cazzo, questo pezzo di merda, sei un povero mafioso di merda, sei un mafiosetto di merda, sei un coglione totale, bravo, una capra comprata da questi imbecilli che ti fanno parlare. No, io sono uno che non ha paura di dirle, cittadini di Sutri, ma cosa c'entra? Per fare il sindaco, per fare il sindaco non c'è bisogno di essere fisicamente su una poltrona, uno ha delle idee, le applica, anche se va una volta al mese è uguale, diglielo Vittorio, sì, basta con sta cazzata. Ma lo fai parlare apposta, ti tiri un coglione lì, un minorato per sembrare intelligente tu, e sei un minorato mentale, è un rotto in culo, imbecille, incapace e pagato da voi, vada a Sutri, sei ignorante, un tipico qualunquista ignorante, qualunquista di merda, idiota, non chiamate di più, non parlerò mai più con la zanzara, non posso parlare con un minorato di merda. Vittorio! Eccolo! Oh! Eccolo! Scendete da piedistallo! Scendete da piedistallo! Prince è solo uno snob, una persona che non rispetta gli altri, un porco, un essere spregevole, uno schifoso. Sessualmente ambiguo. È ambiguo. David, qualcuno ha fatto il conto? Qualcuno ha fatto il conto? Eccoci qua, buonasera amici cari. Nella telefonata di ieri. Seconda puntata dell'anno 2020. Allora, buonasera. Nella telefonata ultima puntata. No, che ultima? Eh sì. Non ci sarà mai più un 7 gennaio con la zanzara in onda. Ma non è vero. Ma chi l'ha detto? Non si sa mai. Saranno gli ascoltatori a decidere. Ci sarà un grande appuntamento di cui parleremo nei prossimi mesi. Questa può essere un'idea. In cui una nuova piattaforma russa, naturalmente, e saranno gli ascoltatori a decidere se il programma deve continuare oppure perire con tutti i suoi mostri. Questa però, può essere perire. Un'idea, la grande questa diretta. Grande arca di Noè deve sopravvivere oppure deve morire. Lo deciderà il pubblico, naturalmente. Allora qualcuno ha fatto un conto. Mi devi far parlare del caso della Gebreal. Scusi Ferrero. La RA. Allora che dice sulla Gebreal? Avrebbero naturalmente dovuto invitare il generale Haftar. Non Gebreal. Era una Gebreal, una signora miliardaria che vive a New York. Ma dai. Ryan, il mercato, ma una cosa, la verità, avrebbero dovuto portare il generale Haftar. Cosa bellissimo, cosa c'entra con Sanremo? Un generale, quanto bellissimo il generale, bellissimo, con la Libia, bellissimo il carro armato. Ma quello sta a Sanremo. Portare un carro armato a Sanremo, dai, quello fa ascolto. C'è il mondo in fiamme, Trump che bombarda l'Iran e questi portano la luna cebreale, ma dai, ma è fiction, è tutta fiction la realtà. Ma portare naturalmente il dramma della guerra nel servizio bollico, cioè, dice un dai, carro armato vero con i libici sopra, un carro armato con il libico, dai, e farebbe ascolto quello, sì, dai, ho capito, ma... e funziona a televisione col devo pubblico vedere. Che decide. Io naturalmente i miei collaboratori lo dicevo sempre, voglio vedere la televisione, è no. Vedere quando mi dicevano abbiamo fatto un servizio sulla guerra, dico cosa, c'è un morto, sì o no, c'è uno il morto, se non c'è il morto non lo vedo naturalmente, quello è carta allora... stampata, è racconto, la televisione è vedere, e dai, lo saprei, ma cosa, ma dai, ma cosa c'entra Haftar, quello è un generale che sta, fanno sempre Montalbano, ma cos'è la feva Montalbano, generale Haftar naturalmente che arriva a Sanremo con un carro armato, bellissimo, attraverso Sanremo viene. Naturalmente con un carro armato esce tutto in diretta naturalmente e poi canta in arabo, questa è televisione, dai, ma dai, ridicoli, perché non lo dice Damareus? non me lo fanno fare una cosa incredibile, mi hanno detto che ho vergognoso la proposta di Freccero, dai, vabbè, comunque Rai lo consigli uno, lo consigli a cosa, adesso inizia pure il nuovo edizione là del coso, come si chiama, del padre, dai, là come si chiama il prete là, il prete Don Matteo, Don Matteo. Dai, mi manda i matti con la bicicletta, il prete con la bici, dai, ancora con la bici, ma Don Matteo, ma che Italia è l'Italia anni 50, cattà caterai uno, dai, disvalori, dai, va bene, grazie allora ripeto, ieri a un certo punto telefonata, durata della telefonata 12 minuti e 40 insulti di Sgarbi a Gottardo in questa telefonata, infatti, aspetta, io non ho mai ricevuto tanti in 10 anni di Zanzara, cioè calcolavo questo, io in 10 anni di Zanzara 10 non ho mai ricevuti così tanti in 10 anni come lui in 12 minuti, è un record, allora, assoluto. 10 qualcuno ha fatto il conto, 10 testa di cazzo, sì. 7 coglione, sì. 5 ignorante, sì. 5 badare via culo, ma perché io rido quando sì, 4 pezzo di merda, 3 qualunquista di merda, sì, perché l'ha fatta arrabbiare, c'ha ragione Sgarbi, 3 minorato mentale, 2 coglione totale, 2 sì. imbecille, 2 sì, faccia sì, di sì. merda, 2 fallito, 2 finca di l'eolico nel buco del culo. Ma perché poi l'eolico? Ma perché ridi? Un coglione totale, uno faccia da culo, uno nullo, una volta merda, una volta plebeo, una volta idiota, una volta incapace. Ma plebeo non è un insulto, so, plebeo. Una volta incapace, una volta scabra, una volta fazioso totale, una volta morto secco. Totale 57. È bello, c'è scritto, e dal centro statistiche della Confindustria per oggi è tutto. Chi l'ha fatto questo centro studi? Un genio. Incredibile. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro? Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro? No, non lo prendo, io non prendo lo stipendio, testa di cazzo. È diventato notizia, uno dei borghi più belli d'Italia. Ho aperto molto un bene. Che non hai mai visto, testa di cazzo. Molto vai bene. Sprozzate. Bravo. Sì, e lei vada a Sutri a fare il sindaco ogni tanto. Mai fatto da un cazzo, non va a Sutri. Mai fatto un cazzo in vita tua. Mai fatto un cazzo, coglione. Ho aperto bravo, un museo. Bravo, questa ha ragione. Guardi, guardi che non sono Parenzo. Sì, sei un coglione totale. Una testa ha ragione, di cazzo. Ha ragione. Ho fatto diventare sì, benissimo. Sutri, però benissimo. Più belli d'Italia. Perfetto. Ho fatto arrivare i soldi. Benissimo. E nell'ultimo mese. Poi, e nell'ultimo mese quanto c'è stato a Sutri? Vai a chiedere quello. Negli ultimi 30 giorni. Feste di cazzo, morto secco, è venuto anche Parenzo lì.

chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Prima puntata del 2020, dopo 10 secondi, Parenzo, ah, la Befana, e urla. La verità è che anche lui ha bisogno di questa trasmissione, lui che tanto la bistratta. Lui è il primo dei mostri, stava a casa, non ce la faceva più, voleva il turco, voleva chiamare. E con Gini, i bambini, urlava contro i bambini, Parenzo. Auguri, Parenzo, buon anno. Eccoci. Parenzo, il 2020 sarà un anno disastroso per te. Riceverai cartelle impazzite dall'Agenzia delle Entrate. Ma per cosa? La tua donna scapperà con una risorsa della Boldrini. Ma come si permette? E sarai sbattuto fuori dalla Sette. Porca e miseria. Sarai assunto da libero. E per sbarcare il lunario sarai costretto a scrivere articoli contro negri, musulmani, zingari e culattoni. Pensa fosse vero tutto questo, no? Tu ti ci vedi lavorare al quotidiano libero, quotidiano libero. Ti posso, Feltri, amico, Feltri che ti dice c'è un pezzo da fare, fratello, un pezzo caro, da ti posso garantire immigrati, ti posso garantire l'incidente di un immigrato, sì, sì. Ti posso, fratello caro, garantire poche cose della mia vita, poche certezze ho sul mio futuro, indubbiamente, sì, poche certezze ho, come tutti, contratti in scadenza, cose, figli da mantenere, ma non c'è problema. Però una certezza, fratello caro, te la voglio dare. E qual è? Mai la mia firma sarà a pagamento su giornali quali La Verità e Libero. No, mai. Ma che vuol dire? Perché l'unico articolo che scrissi per Libero l'ho scritto, gliel'ho mandato gratis, perché non voglio prendere i loro soldi. Quando feci l'intervista dell'Utri gliel'ho regalata a Fenti, perché sapevo, no, perché sennò mi dico tu hai scritto, no, una volta sola su una cosa specifica e me ne pento. Mai la mia firma sarà apposta sotto il cavallo alato di Vittorio Feltri o sul magnifico giornale La Verità, dove c'è la firma del signor Borgonò. Queste sono due certezze granitiche. Ma perché? Che ti voglio regalare. Ma c'è la democrazia, dai, ma c'è la democrazia. C'è la democrazia di non scrivere per questi giornali. Vabbè, vada, ma tu li consideri il male assoluto, dai. Martedì 7 gennaio 2020. Vabbè, Parenzo, due punti. Anche fossi, come dire, anche sotto qualora un ponte, anche fossi sotto un ponte. Rimango sotto un ponte. E ti dico di più, mi scalderei col Corriere Repubblica, non col Libero. Peraltro, mi scalderei anche per scaldare. Utilizzerei altri giornali. Le massime di Vittorio Feltri. Ecco. Ogni anno che passa, sentiamo. Per quanto riguarda gli anni 20, l'anno nuovo, io devo segnalare che ogni anno che passa è uno meno che potremo vivere, quindi non sono così contento ogni volta che il calendario fa. Che visione pessimistica, Vittorio! Ma no, ma questo ha ragione, però oggettivamente è fattuale. Ma questo è fattuale, cioè, perché uno deve, a me queste cose qua, che uno festeggia il nuovo anno, cazzo, è passato un anno, ma festeggia, cioè, il fatto che festeggi? Si chiude, ma che si chiude un anno, ma bello, cosa cazzo sia, festeggi? E con cosa ottimismo festeggi? Guarda al futuro. Dai, dopodiché se non vuole festeggiare, ma chi se ne frega, stia coi gatti e no, però no, ma sempre in televisione va a parlare di qualunque cosa, però sempre. Comunque, ragazzi, pensando ieri alla discussione che abbiamo avuto, alla conversazione che abbiamo avuto con la signora Valentin Demy, l'ex pornostar che per un giorno è tornata insieme al signor Max Felicitas, un incontro tra generazioni, praticamente è tornato a fare la pornostar, riflettevo tutta la notte su questa cosa qua. Chi è oggi che, siccome è un film diciamo, una scena ispirata alla zia che va con il nipote, chi è che non ha mai sognato di farsi una zia porca? No, diciamo la verità. Chiedo scusa, so che c'è la guerra in Libia, so che c'è chiedo scusa di guerra in Medio Oriente. Dico, io non ho mai d'accordo. Chiedo scusa se umilmente. Ma tu non hai mai sognato di farti una zia? Ma magari non tutte le zie. Chiedo, c'è una zia. Ma no, io non di sangue, diciamo, la moglie di uno zio. Non hai mai pensato di fartela una, magari giovane? Umilmente, chiedo scusa se umilmente. Questo, ne ho avuti altri di pensieri, ma non ho mai avuto, chiedo scusa se non ho mai avuto, cioè, non hai mai pensiero. Pensato di farti una zia magari giovane o giovanile, eccetera, cioè la moglie di uno zio. Potrei girarti la domanda, così apriamo un fronte della famiglia Cruciani. Adesso non ricordo, perché oggettivamente mi sembra che non c'era molto da arare lì, non c'era molto su cui lavorare, perché altrimenti non c'era avresti grande pure materiale. Fatto l'incesto in famiglia. No, ma non è l'incesto, una vergogna. Ma no. Cosa sei una vergogna. Ma Cruciani, due punti, no. Mi sarei fatto la moglie di mio zio. No. Una vergogna assoluta. No. Una porcheria. Ma no. E mi dispiace per una parte della tua famiglia che conosco, la adorata sorella, i fratelli, sì, eccetera. Ma, tia, non no. meritano di avere un fratello che dice che si sarebbe fatto la moglie dello zio. No, e no, so perché anche di quale zio parli, peraltro. No, ci sono. Sono avanti negli anni, erano avanti già negli anni, dunque non ho mai avuto questa cosa, ma avanti negli anni. Però devo dirti la verità, che a molte persone è successo, io ho conosciuto delle zie di amici miei, eccetera, e sinceramente me la sarei fatte. Cioè non è così strano, ma sì, ma non è così strano che un nipote possa sognare di farsi una zia, magari non di sangue, non la sorella della madre. Ma è normale che sia così. C'è cioè, la zia porca, la zia milf, la zia un po' più giovanile che mancava. Magari ma è un sogno, mancava. È un sogno, dai, zie è un sogno. Mancava, fino alle zie mancava. Ma non c'è mancava, niente di strano. Mancava. Guarda che è talmente normale questa cosa che a Forum, oggi credo che discutessero, Forum sto parlando, Canale 5, discutevano di coppie poliamorose che scopano nei bagni. Cioè di questo discutevano, era tutto un caso giudiziario, cioè, ma alla fine poi questo, di questo si parlava. Senti. Lì, adesso mi viene da fare una battuta, ma lì c'era la sagra dell'Ormonella. Sì, insomma, era una satanata di a una certa età. Di la verità. Mamma mia, lui mi confidava che non ce la faceva più. Tu questa... il tuo migliore amico qua? Lo voleva tutti i giorni, voleva uscire. La storia del bagno dell'aeroporto. Nei bagni degli aeroporti lo assaliva. Vabbè. Dai, di tutto. Tu me l'hai raccontato, diglielo. Sì, insomma, una volta l'ha accompagnata perché era salita con l'aereo e quindi scendeva in aereo e poi mi telefona e mi fa: oh, ma lo sai che questa è una pazza, per carità, tutto bello, ma all'aeroporto è venuto a dirmi di accompagnarla in bagno perché non sapeva dove era. Una volta che l'ho accompagnata sul bagno mi ha tirato dentro. Subito. Cioè, io poi lo capivo. A queste cose, no, per carità, sono belle, però... Diciamo che se non gli fosse andato bene mi avrebbe lasciato tempo dietro, no? Vabbè, poi sappiamo che sono spesso inventate queste storie, però insomma si parlava di questo. Silvio da Salerno, vai Silvio. Buonasera Giuseppe. Dimmi Silvio, dimmi. Che succede? Io volevo dire riguardando quel marocchino che hanno ammazzato investito. Sì, investito, per me, sì. Per me il papà ha fatto bene. Ma come ha fatto bene? Quello l'ha investito. Ha fatto benissimo, no bene, benissimo. Addirittura? Perché se era per me, lo agganciavo dietro la macchina e lo portavo a fare il giro per il paese. Addirittura, te lo agganciavi dietro la macchina. Certamente, perché sono razzista e fascista. Pure. Abbiamo i numeri di questo qui, vero? Sì. A che servono i numeri? Uno che si autodenuncia. Ma che si autodenuncia, dici essere fascista e razzista, vabbè chi se ne frega. Uno che cioè, è normale. Parezio, perché avete paura dei fascisti? Ma non è paura, è che se uno dice... Perché avete paura dei fascisti? Signor Silvio, da non Silvio, so dove, sì, Silvio, se uno da telefonasse, Salerno, le faccio questo esempio, non mi voglio arrabbiare perché sono solo 18:56 no, e il cardiologo, che ha detto che dopo ieri devo stare più tranquillo. Dopo ieri, per forza, mi avete fatto arrabbiare già ieri. Comunque, in 30 secondi le dico questo: se un Silvio da Salerno, un idiota, diciamo, dai, per convenzione, chiamasse più breve, anziché Silvio da Salerno, un idiota Silvio sì. da Salerno, chiamasse e Parezzo, dicesse: viva Totò Riina, sono con Riina. È così, immediatamente la polizia si farebbe dare il numero di telefono, Silvio, codice fiscale, indirizzo. Quello là che cosa avresti fatto? Non ho capito bene. Avresti trascinato col gancio della macchina? Cosa avresti certamente, fatto? Certamente, perché se tu tocchi la mia famiglia... Ah, ho capito, quello aveva rubato un telefonino. Io ti tolgo dalla strada. Perché la mia famiglia è sacra. Cioè un telefonino vale strascinare un uomo per la strada. E che significa? Tu vieni a casa mia, vieni a rubare il telefonino di mio figlio e io ti dico bravo, hai fatto bene. Ma ho capito, ma te dici? Cioè, tra dire bravo hai fatto bene e trascinare il corpo con la macchina, ci sarà la via di mezzo dello Stato di diritto, no? Fammi parlare. Scusi, perché lei è fascista? Piacere Parenzo. Non stare, Silvio, male. Coglione. Non stare male. No, mi dice coglione. Piacere Parenzo. Se no ti arrabbi il cardiologo. Domenica mattina, che è successo? Sì. Silvio? Domenica mattina sono andato a fare la spesa con mia moglie alla MD di Battipaglia. Sono uscito dal supermercato. Avevo appena appoggiato le borse delle spese in macchina. Allora? Un negro. Ha preso il carrello e scappava. Perché c'erano allora... 2 euro dentro. Ma quando mai succede? Allora il carrello scappava. Sì, io l'ho rincorso con lo. Con la mazza. E lo volevo menare, ha lasciato il carrello e scappava. Il carrello, 2 euro di carrello. Hai capito? Fermi. Ma lei è un pezzente! 2 euro di carrello lo rincorre con la mazza! Lei è un pezzente! Ma io non ti scaldare, il cardiologo. Per 2 euro di carrello. Fermo là. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, DAEG 465, salvo approvazione della banca, info su landrover.it. Rifugiati in un'oasi di salute e benessere immersa nel verde. Aspria Arbor Club Milano, pensato per te e la tua famiglia, dove rilassarti e fare il pieno di energia. Scopri la nostra offerta di soddisfazione in 90 giorni su aspria.com. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Zanzara. Noi siamo dalla parte di Gratteri. Che vuol dire stare dalla parte di Gratteri? Cosa vuol dire? Che Gratteri è infallibile? Cosa vuol dire questa teoria per cui chi critica Gratteri, chi osa parlare, sta con la mafia? Non permetterti, Giarrullo, Giarrillo, Giannullo, non permetterti. Non osare, Giarrizzo, non osare, Giarrosso, non osare, Giannullo. Chi critica Gratteri, chi osa parlare, sta con la mafia. Non permetterti, Giarrizzo, non permetterti. Chi critica Gratteri, chi osa parlare, sta con la mafia. Non permetterti, Giarrizzo, non permetterti. Non osare, Giarrizzo, non osare, Giarrosso, non permetterti, Giarrizzo, non permetterti. Non osare, Giarrizzo, non osare, Giarrosso, non permetterti, Giarrizzo, non permetterti. Se vuoi parlare al telefono con Zanzara da Pallotto 0024 0024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Io da Vip Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Vai Gottardone, vai contro quello stronzo di Sgarbi, via tutto il cazzo di stipendio che si prende per non andare in Parlamento, bravo così, combatti, ti voglio così Gottardone, così. Mamma, Gottardone mio, mi ha fatto fare un cazzo enorme contro quel coglione di Sgarbi che si frega i soldi degli italiani da 30 anni, quella testa di cazzo che conosce 3-4 vocaboli aulici e fa lo strafigo. Grande Gottardo, mi ha fatto fare un cazzo enorme, enorme. Ma ieri Sgarbi contro Gottardo, grande Sgarbi. Gottardo, muto! Muto devi stare, muto! Che non riuscivi a dire un cazzo ieri in preda all'analfabetismo! Contro Sgarbi ti metti, muto! Coglione! Sgarbi, è inutile che ti incazzi. Sei la più grande zecca d'Italia. Sono 40 anni che ti diamo a mangiare. E che cazzo hai fatto? La figura del coglione in televisione, quattro mostrine della minchia, ti sei fatto pure scegliere il comune per mafia. Ed hai ancora il coraggio di presentarti in giro. Che a momenti ti trovo candidato pure per le elezioni del condominio, va. Ma vaffanculo, vai a lavorare. Bravo Gottardo, finalmente una cosa giusta hai detto su quel pirla di Sgarbi. Bravissimo, bravo, finalmente. Tazza di merda! Ah, Allora ragazzi, le sardine, ieri non abbiamo parlato, ma io vado ai matti, vado al manicomio. Molti pensano che io sia ossessionato. Sì, lo sei. No, non me ne frega niente delle sardine, ti assicuro, non me ne frega nulla. Essendo il nulla, non può fregarmi qualcosa del nulla, essendo loro il nulla. Non mi può, cioè non mi può appassionare il nulla, il niente. È un movimento che è a favore della sinistra, migliaia di persone in piazza, sì, va bene, d'accordo, senza va bandiere di partito, per ma te sono senza il nulla. Bandiere di partito, ma che senza bandiere di partito, affiancano il PD, affiancano la nessuno, sinistra, sono oltre affiancano il PD, la i candidati del PD. Ma scusa, chi appoggia Salvini? Chi appoggia l'Emilia Romagna? Chi appoggia l'Emilia Romagna? Il signor Bonaccini, del PD, che ha fatto anche una sua lista, che è la lista civica. Adesso Bonaccini non è del PD. Adesso non è del PD. Lo è orgogliosamente. No, non mi pare. Non mi pare troppo orgogliosamente. Non lo nomino nemmeno. Amministratore, non lo so. Non vivo in Emilia Romagna. Conosco l'Emilia Romagna e le persone con cui parlo. Non lo so. Se volete trasformare l'Emilia Romagna in un grande campo di battaglia, nel quale si muovono le forze da una parte della Lega per la fu indipendenza della Padania e dall'altra le cosiddette armate rosse, come le chiamate, per un esercito di liberazione nazionale della Romagna da parte della Lega verso i comunisti, è una immagine che hai costruito che va benissimo per le trasmissioni di Mario Giordano, dove io mi auguro stasera di vedere un grande Risico, da una parte le armate rosse, quelle di Bonaccini, e dall'altra le armate verdi, quelle del... Ecco, avete trasformato la vicenda, l'elezione democratica libera in Emilia Romagna come in uno scontro epocale. Ma chi? Salvini. Questo Salvini. Avete fatto. Questi scendono questo in piazza dicendo fatto. Che c'è il pericolo. Dopodiché, in Emilia Romagna se in mezzo Salvini a tutto questo, in mezzo a tutto questo, 50.000 persone scelgono di scendere in piazza senza bandiere di partito e dire il modello ridicolo salviniano non ci piace. Il modello tu in tutto questo trasformi la notizia. Dici che le sardine sono pericolose. Io non lo so, ma sei un personaggio strano. Ma chi dice? Io sono sei nulla, un personaggio detto, strano. Ho detto che sono il nulla, figuriamoci. Ma pericoloso nel pericolose. Senso che si oppongono, ma figurati, fanno. Ma figurati. Ma pericoloso è nulla, pericoloso quello che esiste. Essendo il nulla, secondo me non possono essere pericolose. Ma la cosa più incredibile è questa. Notizia, credo, di ieri, di questi giorni, eccetera. Cioè, vogliono fare un congresso. Le signore sardine vogliono fare un congresso. Ma congresso, cosa discutere? Un congresso! Ma non erano un movimento spontaneo. Un congresso sono le tessere. Tu sei troppo la maggioranza, l'opposizione. Ma di che parliamo? La Ayatollah Khamenei non fa congressi. Senti questa. Le sardine fanno un congresso. Senti questa, non so come si chiama. Pinotti, Panotti, Punotti, non so nemmeno. Ma ogni tanto ad Agorà una con gli occhiali che sembra una brava ragazza, con gli occhialetti, con i capelli ricci, una di quelle per bene, eccetera, precisina. Siamo tornati nei territori, che non vuol dire un cazzo. Siamo tornati nei territori. Che cazzo vuol dire? Sono andata a Riace a fare una manifestazione insieme a Mimmo Lucano, che è un fiero oppositore di Salvini. La normalità, peraltro, pur essendo stato scarcerato, cose su cui non discuto naturalmente, è ancora sotto indagine, cioè è aperto un procedimento giudiziario. Però il garantismo vale solo per gli altri, cioè il garantismo vale solo per i propri, gli altri invece sono i porci criminali, ma eccetera. Ma cosa dici? Questa qua che dice, senti, nulla, dire il nulla, ma lo facciamo sentire essendo il nulla. Sì, in Calabria si sono ritrovati a Riace ieri, perché comunque, così come avevamo detto al congresso di Roma, l'importante era anche ritornare nei territori, perché comunque la maggior parte dei nostri flash mob sono avvenuti anche in città soprattutto molto grandi, quindi uno dei tanti obiettivi che ci siamo posti era di ritornare sui territori. Ma chi l'ha eletta questa? Chi l'ha nominata? Si auto è un'amica di quel Santuro, Santorri, Santicchio. Chi cazzo è questa qua? La sua figlia? Chi è? Chi l'ha nominata? Chi? Ma che te ne frega te? È come il divino Telma, siamo, è come il divino Telma. Ma che differenza c'è? Io vado ai matti. Lo sai che c'è un ufficio stampa delle sardine? Si danno un'organizzazione e tu li deridi perché si danno un'organizzazione ufficio democratica. Stampa delle sardine, vado ai matti. Ma voglio dire, ma è normale, li chiamano tutti. Ma tu ti indigni perché si danno. Ma guarda, vado al manicomio. Siccome si danno un'organizzazione democratica, non se la dovrebbero dare. Tu li bombardi. Manifestazioni spontanee e basta, non rompessero cazzo, altrimenti facessero un partito. Le sardine si presentassero. Incredibile. Ma le cose normali ti sembrano folli a te. Senti. Anzi, a Torino, in Piemonte avremo una sorta di congresso, riunione, il 25 gennaio, esatto, perché appunto in Piazza Castello abbiamo deciso di portare i libri, abbiamo deciso di sventolare la cultura. Come sventolare e la cultura? Oltre a sventolarla, oltre a mostrarla, sventolare, abbiamo deciso anche di portarla in concreto. Ma che vuol dire sventolare la cultura? Ma se l'hai tagliato? No, ma non ho tagliato, se l'hai apposta tagliato. Ma questa è la parte più comprensibile. Lo stava spiegando. Ti assicuro che era la parte più comprensibile. L'hai tagliato perché sei una fabbrica di fake news. Tu sei l'uomo di Steve Bannon in Italia. Sei l'uomo di Bannon in Italia. Hai tagliato. Ma non ho tagliato, era nulla. Era nulla. L'hai tagliato l'audio. Sei Steve Bannon. Ma sei pazzo. Invece nazionale posso dirvi che entro il 26 gennaio uscirà una data, data che verrà stabilita dopo il 26 gennaio, in cui ci sarà un congresso nazionale di noi rappresentanti sardine. Questa ride pure, ride due giorni. Questo è un po' delle proposte che vanno al di là di quello che abbiamo visto finora. Chiede giustamente. Me ne può anticipare una? Una proposta. Beh, di proposte abbiamo i sei punti base principali. Nulla, zero assoluto. Che abbiamo portato a Roma e niente, in un palazzo abusivo, occupato abusivamente. Lo stabilito è questo. Non sa questo, non sa un cazzo. Questa la televisione dice che cosa, quale sa un altro. Cosa de- un cazzo. Mi è sembrato di sentire l'ottima intervista della signora Bortone di Agora agli amici. Ma giustamente, comunque, perché basta, la realtà è questa. Dicevo prima un ascoltatore in un WhatsApp. Non so se l'abbiamo già mandato. L'occasione per dire che domani sarà ospite della signora Bortone. Ma chi se ne frega, su Rai 3. Dai, naturalmente domani faccio su Rai 3. Dai, dalle 8 alle 10. Chi se ne frega. In un WhatsApp c'era uno che dice: fate sentire le sardine il più possibile, perché più parlano meglio è. È giusto, è così, ha ragione questo qua. Senti, Cruciani, ti faccio un appello, favore, giusto, manda almeno una volta al giorno una sardina in onda e lasciala parlare liberamente per 3-4 minuti. Ah, che figata. Si capisce proprio il nulla cosmico che hanno in testa. Grazie, ciao. Buona domanda, ottima domanda, Serena Bocconi. Luigi da Napoli, vai. È incredibile. Pronto? Dimmi Luigi, dimmi. Ciao Beppe, senti, io volevo parlare di una cosa, mi dispiace che sono fuori dal coro delle sardine, ma volevo parlare del sogno di tromparsi una zia. È stata una cosa che mi ha tolto il sonno a 13 anni. Aspetta, calma, perché ti sento male, siccome l'argomento è molto importante, decisivo anche, direi. Certo. Tu stai dicendo, però collegati meglio, non so chi ci sia in collegamento, anche c'è, cioè, chi si sente in sottofondo, tua figlia e dei bambini dietro, magari metti anche, no, cerca di non far sentire queste cose, se vuoi, se non falle sentire, chi se ne frega. Non ho capito, un tuo sogno erotico è stata tua zia praticamente. Ma ha tolto il sonno, io quando avevo 12-13 anni. Beh, addirittura 12-13. Ero piccoletto proprio, erano alle prime armi, addirittura 12-13 anni. Scusate, aveva una zia che era bella come il sole. Lo so, ma era zia diretta, cioè era la zia che era una sorella di tuo padre, oppure era una zia acquisita? Era, diciamo, la sorella di mia madre, purtroppo, pure, ma ne vergogno pure, però. Lo so, amico mio, può succedere. Sono quei sogni reconditi che tu non. Chiaramente, insomma, rimangono sogni. Però è una cosa che me la ricordo stasera quando ho sentito parlare, sono rimasto senza parole perché è stata una cosa che ho vissuto. E poi non è, poi è sfumata questa cosa qui, è sfumata lentamente, ma rimane il sogno erotico, uno dei più grossi sogni erotici che c'è. Vabbè, questo sì. Ma una cosa, io scusi, invece chi vota lei alle elezioni? Ma che c'entra? Perché se uno ha un sogno erotico, te voglio bene, non farla dirci. No, ma per capire così. Solo quello che io ho voluto, cioè che ho sognato quando ero piccolo. Ma se quello sognava da piccolo, esatto, però ti è una domanda legittima di Parenzo, che cosa lei vota alle elezioni? Alle ultime elezioni. Partito Democratico, perché uno non può avere, uno del partito del PD non può sognare di trombarsi la zia, caro Davide, è impossibile. per te è difficile una cosa del genere. Scusa ragazzi, io una volta avevo un sogno, non della zia direttamente, ecco, una volta tanto tempo fa, nei pranzi di Natale, eccetera, c'era di solito un amico di mio zio che portava una sua, la sua compagna, ecco, all'epoca. Rovinato la famiglia, attenzione. Dell'est, ancora me la ricordo. Che veniva dall'est Europa, credo dalla Repubblica Ceca. Che figure fai fare alla tua famiglia? Posso dire mia. Che io impazzivo, perché era molto più giovane di lui, era molto più giovane. Io andavo ai matti, andavo al manico. E quello che hai fatto quella volta a Natale con quella. Io non ho mai fatto la vergogna, nulla. La vergogna. Mi ritiravo in bagno a un certo punto e, amico mio, e immaginavo, sognavo, perché questa qua era una figa pazzesca, stava con questo signore che era un po' più anziano, ma adesso io non vado a discutere, eccetera, e io sognavo, fantasticavo delle cose meravigliose. Non era una zia direttamente, ma mi ricordo questa cosa dei pranzi di Natale. Luigi invece si ricorda direttamente piccole cose. Mi ricordo una piccola cosa che mi è rimasta impresso. All'epoca viviamo in campagna, quindi avevamo le olive, queste cose. Ma tu ti sei mai masturbato su tua zia? Mamma mia, sono venuti i galli alle mani. Fermo lì. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara, riuniti per la prima volta in una grande mostra, 70 capolavori di Segantini, Pellizza da Volpedo, Previati, Morbelli, Fornara, Longoni, raccontano la storia della prima avanguardia italiana di fine Ottocento. Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara. Mostradivisionismo.com. Acquisto, noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Nasce Noleggio Chiaro, il primo noleggio a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles che ti permette di scegliere oggi l'auto che desideri e ti dà la possibilità di acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tua da €399 al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 gennaio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo €12.200. Info su noleggiochiarofca.it. Da MediaWorld sono iniziati i mega sconti, come TV Sony 4K 55 pollici con uno sconto del 30% a €797,30. Fino all'8 gennaio scopri tanti altri mega sconti in negozi online. MediaWorld, fatto apposta per me. La Zanzara. La Zanzara è un inno a Satana. Sono parole demoniache. Io non sto salendo sul carro di un beneamato cazzo. Sul carro di un beneamato cazzo. Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. Allora, fermo restando che io sia di idee politiche completamente opposte a quelle di Salvini e quindi di Cruciani, quindi anche di Parenzo, che fa il sinistroide, ma è un cazzone. Le sardine mi fanno proprio cagare, va bene? Mi fanno cagare perché non... cioè... non hanno un cazzo, non sai, mi sembrano i girotondini, quei buffoni, i girotondini, e sono durati il tempo di tre curegge, e come le sardine, che te ne hanno uguale. Cruciani, uno come te non è che deve andare in depressione perché la figliola è una sardina, uno come te non si doveva riprodurre. Allora Sgarbi, non pago di quello che è successo in questi giorni, lo Sgarbone che cosa fa? E innanzitutto protesta perché non può partecipare alla Pupa e il Secchione, sai che inizia la Pupa e il Secchione, sì, sì, condotta da Ruffini. Sì, cioè grande, proprio Ruffini è un gigante assoluto, ragazzi. Beh, un gigante soprattutto perché pare che voleva fare dei giochini insieme alla sua ragazza, io non capisco, ottimo, perché deve fare un programma in Rai, un Rai 2, un programma ottimo. Sulla Rai dovrebbe fare. Perché? Dovrebbe fare una striscia quotidiana sulla Rai, Ruffini. Di che tipo? perché ha una sensibilità. Ma lo dico, cioè, Ruffini è un grande talento di questo paese. Lo hanno messo da parte. Adesso sta facendo un programma, la pupa e il secchione. Messo da parte. Ma chi? E mi dispiace che l'avete messo da parte, che è un talento. Io comunque, ho visto che a teatro fare Shakespeare, a teatro a recitare Shakespeare. Ma adesso non leccare il culo a Ruffini. Stai leccando il culo a Ruffini. Come al solito, stai leccando il culo a Ruffini. Tutt'altro. Allora, signor Ruffini, pupa e il secchione, doveva partecipare anche Sgarbi. Che è successo? Siccome è candidato in Emilia Romagna, pare che abbiano tagliato le scene. Lui grida la censura. Però, amico mio, Sgarbi, io posso anche essere d'accordo con te. Ma che è candidato? No, ma sì, l'ho detto. Ma posso anche essere d'accordo con te. Sì, ho capito, però è una legge ridicola. Quello alla pupa e il secchione parla di arte, non è che parla di Emilia Romagna. Parla di altri cazzi. Incontrollabile, potrebbe dire. Ma ho capito, non è che uno. Ma ho capito, ma è registrato, rincoglionito, è registrato. Ho capito, ma può fare riferimenti. Ma non può fare riferimenti, è registrato. Che cazzo dici? La legge è sacra. Ma è una puttanata la legge. In questo caso ha ragione lui. È una puttanata questa legge. Uno sta lì a parlare di arte, di altre cose, solamente perché appare ed è candidato. La legge di merda sulla par condicio lo costringe a non starci. Ma bisogna legge tagliare normale, le scene. Ovviamente, è una puttanata, se una uno frontata. È candidato, non va e in non una può trasmissione apparire, di intrattenimento. Non può, ma che cazzo dici? Certo che può apparire, ma non è una trasmissione di intrattenimento. Ma l'hanno registrate prima, tra l'altro, prima di sapere che lui era candidato. Ma è una follia. Le leggi, allora, ma certo, tutto. Bisognerebbe cancellarla sta follia. Ma uno è candidato e non può andare alla pupa e il secchione a parlare di tutt'altro? In una cosa già registrata prima. Dai, è ridicolo, su, è ridicolo. Questo è un danno che hanno fatto a Ruffini, probabilmente. Ma non lo so che danno, non me ne frega un cazzo. Allora, danno solidarietà che hanno fatto. Ma questo danno nessuna... che gli hanno fatto. Io faccio vedere. Si dovrebbe dare solidarietà all'ex fidanzata di Ruffini, che pare sia stata cornificata e anche fidanzata? Con grande gioia, anche chi in maniera multipla. Cosa la del bufalo, là. Secondo gli argomenti di gossip l'ottima di oggi. Ottima del bufalo. Ottima, devo dire ottima del bufalo. Però eravamo in collegamento con Luigi da Napoli che ci stava parlando. Ma non sta più con Ruffini, signora del bufalo. No, si è lasciato, non lo so, perché è stata la cornificata. Grande così storia d'amore, da mettere una bella serie naturalmente su Netflix da fare. Ma sulla storia d'amore tra Del Bufalo e Ruffini. Ma cosa c'entra adesso? Dai, è da fare, dai, non me la fanno fare la Rai, dai. Allora, Luigi da Napoli stava parlando della cosa, stava parlando dei sogni erotici sulla zia. Che Luigi cos'è che, da Napoli. Che cos'è che stavi dicendo prima della pubblicità? Ti stavo raccontando un episodio che mi è rimasto non impresso di più. Allora, ragazzetto, avevo 12, 13, 14 anni, quella era l'età. Noi abitavamo in campagna, mia zia saliva sulla scala perché doveva raccogliere le olive e io gli guardavo le cosce da sotto la scala. Una cosa allucinante. È stato il mio inizio dell'idea erotica di una donna. Lo so, amico mio, è così. I sogni erotici sulla zia. Io ho lanciato questa cosa semplicemente prendendo spunto dal ritorno al porno della signora Valentin Demy, che ha fatto un pezzo col signor Max Felicitas su una scena porno, ispirandosi proprio alla nipote e alla zia. Ma i sogni erotici sulla zia sono un classico, un classico. Edmund, provincia di Cremona, vai. Buonasera. C'è un mio amico, l'avvocato. Dice: io adoravo le mutande nel cassetto. Un avvocato, non è l'avvocato trucco. Io adoravo le mutande. Non direbbe mai una porcheria simile. Adoravo le mutande nel cassetto della madre del mio amico con cui giocava a Subbuteo e da 13 anni. Che devi fare così? Subbuteo, comunque si dice, non Subbuteo. Subbuteo. Non hai mai giocato a Subbuteo? Subbuteo si dice, no? Subbuteo, sì, ma adesso parla lui che non sa un cazzo di pallone. Subbuteo, però ci giocavo anch'io perché sono figlio di quella stagione politica. C'è nessuna politica. Dimmi Edmond. Buonasera. Dimmi. Intanto rispetto per signor Parenzo. Grazie amico caro, grazie. Rispetto anche per te, perché anche te sai come fai, uno deve fare il poliziotto bravo, uno deve fare il poliziotto cattivo. Ma non è vero, ma questa è una cazzata. Cioè, comunque Edmond, dimmi, dimmi cosa vuoi. È così. No, dicevo per il fatto del razzismo, no? Io essendo uno straniero sono un albanese da 20 anni che sono qua. Allora? E secondo me, quello che ho visto per la mia esperienza, i più razzisti sono i più poveracci e diciamo come dice lei, i terroni, ecco. Io non lo dico mai Terroni, veramente. Perché, comunque Massimo lo dice Feltri, Terroni volte. Io non lo dico mai Terroni, non l'ho mai detto, ma comunque va bene, se vuole che io dica Terroni dico Terroni, non è un problema. Signor Parenzo, io da 10 anni, da 15 anni che la seguo, quindi ma che vuoi Edmund? Grazie, cosa vuoi dire? Non ho capito. Comunque i più malinformati, i più ignoranti, che sono i più razzisti, ecco. Chi perché sono? Vabbè, ma non ho capito un cazzo. Tiziano da Pescara, dai. Grazie Tiziano per questa chiamata che lei ha fatto. Ma no, ma non è una chiamata inutile, cioè Tiziano da Pescara. Ringraziamolo. Dimmi. Pronto? Dimmi Tiziano, dimmi. Pronto, salve. Chiamo perché volevo mettere alla luce un argomento che mi sta molto a cuore. Dimmi, i cosa? Furri. Che cos'è i furri? Ci sono i furri sono una specie di disegno stile giapponese di animali con forme antropomorfe e fanno, diciamo, cose zozze fra di loro. Lei si è mangiato un fungo. Sa quei funghi perché vuoi parlare di questa cosa? Fungo, lei si è mangiato un fungo. Perché i giovani sono impegnati costantemente su queste cose, chiedono ad artisti di disegnarli, addirittura su Pornhub c'è anche una categoria dedicata ai furri. Sì, sì, assolutamente. E dunque? Non ho capito. Dunque, volevi segnalare questa tendenza giovanile? Si allontanano dalla figa, cioè. Cioè, tu dici è tutto virtuale, poi nel concreto non succede nulla. Cioè, tutto Pornhub, variazioni su Pornhub, categorie particolari di Pornhub, poi la realtà, come direbbe Parenzo. Ci stiamo perdendo la realtà. Stiamo prendendo la realtà. Però non ha torto Tiziano. So, ritorna alla questione di Freccero, la realtà. Manca la realtà. Ma i nuovi format a che punto sono? Io capisco, Parenzo, il famoso format sugli ospedali, a che punto è? Non riesco a capire bene. Cioè, no, ma naturalmente il format degli ospedali naturalmente è bloccato, immagino. È bloccato. Stato, no, non è bloccato. Si sta realizzando naturalmente a Napoli. Bellissimo. Sì, certo. Quello che avviene, la cronaca, vedete, va oltre le idee di Carlo Freccello, grande direttore di Rai 2, di Medio, se dobbiamo dire che cosa si può fare a Napoli? Io l'avevo detto un mese fa, sì, testimone, vero, sia questa trasmissione, naturalmente, che ogni tanto mi chiama per ragionare di televisione, di videocrazia. Sì, allora. E dissi di fare un reality sugli ospedali, naturalmente, e adesso il reality è a Napoli con queste ambulanze bellissime prese d'assalto. Bellissimo. Dai, ma dove sono le immagini della televisione? Nessuno le ha mandate, naturalmente. Allora io dunque dico, che si può fare? Cioè, mettiamo anziché sistemi di sicurezza sofisticati, vuole fare il ministro degli mettiamo interni, beh, dai, il ministro degli interni, ma cosa siamo, in Iran che controllano tutto? No, mettiamo delle telecamere che raccontano, naturalmente, che documentano il pestaggio, naturalmente, di queste persone. Questa è TV Verità, naturalmente. Dai, cioè, non ho capito, mettere le telecamere non per motivi di sicurezza, però quale sicurezza, da cosa sei? Camanei sei diventato, dai, Camanei, la Yattolà sei diventato, la Yattolà. Semplicemente mettere in sicurezza le semplicemente ambulanze. Semplicemente la televisione, naturalmente, non mi interessa nulla, perché nel paese, la televisione, il racconto, naturalmente. E dunque le telecamere della Rai dentro l'ambulanza. Che naturalmente seguono, raccontano, non fanno nulla, non documentano semplicemente gli scontri. Quando vengono dunque mandare l'ambulanza mandare l'ambulanza apposta nei quartieri più degradati, dai, bellissimo, vengono assediati, questo grande racconto in presa diretta, naturalmente. E il pubblico come interviene? Il pubblico da casa decide, naturalmente, se la persona deve essere trasportata o non trasportata all'ospedale, naturalmente. Perché certo, questo è il tema. Questa è la grande questione, se far intervenire o meno la polizia oppure far pestare l'equipaggio all'interno dell'ambulanza. Naturalmente la gente deve decidere, dai, basta con la fiction e tutti i sceneggiatori che scrivono loro, l'elite dei sceneggiatori, no. Qui è il pop, la gente, naturalmente, che da casa decide. Questo è il vero grande salto di qualità. Sì, dai, con queste storie scritte, e Montalbano, episodio numero 345, dai, tutto uguale. Don Matteo. Don Albano, lì Montalbano, lì scopre sempre chi è stato, ma ti pare possibile? Ma quando invece mai la polizia scopre sempre chi è stato? Invece le ambulanze, telecamere dentro, telecamere e la gente decide se devono tornare in ospedale oppure da casa, naturalmente. Poi fai un grande studio con un conduttore, naturalmente, che conduce dallo studio, si collega con queste telecamere dentro le ambulanze. Naturalmente Paragone potrebbe essere perfetto in questa fase. È stato cacciato anche dai 5 Stelle, naturalmente. Ma quindi c'entra? Magnifico, riportiamolo in televisione. In collegamento non so da dove abbiamo il filosofo della zanzara, signor Fusaro, Diego Fusaro. Buonasera, signor Fusaro, buonasera. Un caro saluto dalle Meneghine terre lombarde pure. A lei e anche al turbo Parenzo, sempre più burbanzoso e banausico, lasciatemi dire. Ma che vuol dire banausico? Che cazzo vuol dire? Scusa, è grettamente utilitario e puntante. Sì, è puntante solo al nudo interesse del bil danaro. Sì, intanto dici quanto ti pagano però intanto, in tutto questo, dici quanto ti pagano. Nudo interesse del bil danaro. Visto che parliamo di soldi pubblici, voglio sapere... Tutte le domande che può porre un filosofo. Voglio sapere quanto ti pagano. Volgare, sì, ma sarà anche volgare un cazzo. Voglio sapere quanto il comune di Siena lo paga per fare uno spettacolo su Bibbiano. Il comune di Siena. Non si ingaglioffisca. Mi interessa sapere quanto percepisce. Questo, solo questo, con i soldi pubblici, sono soldi pubblici, caro professore. Atteggiandosi in tal guisa, lei sembra una Bertuccia. Non dica, non giri con le sue stronzate. Ma scusa, risponda, risponda molto semplicemente. No, nessun turpiloquio. Allora, lei risponda molto semplicemente. Quanto viene pagato per questa sua pagliacciata? Per annunciare il 16 di gennaio prossimo venturo ci sarà la presentazione del mio libro La globalizzazione a Siena, e poi a seguire uno spettacolo di denuncia dei fatti di Bibbiano, sempre a Siena. Trovate informazioni. Però è una cosa pagata dal comune, però. Certamente pagata dal comune. Anche lei verrà pagato, filosofo. Io adesso guardi, siamo un quanto gruppo, viene non pagato? È che vengo pagato io. Ma non mi interessa quanto viene dato il gruppo. Quanto? 3.000 euro con soldi pubblici. Ma non vanno a me, caro amico. Se a lei fosse minimamente dotato a lei quanto di, va? Di quanto intelligenza va? Quanto critica, va lei? Saprebbe che ci si accorda con tutti gli altri. Ma a lei quanto va con soldi pubblici? Siccome parliamo di soldi pubblici, dell'albergo, quanto le va? Via. Quanto le va a lei? Ma saranno affari suoi, quanto va? 500 euro allora, andranno? I soldi, 700 i soldi euro, sono 1000 presi, euro. No, stiamo bisogna dirlo tutto di però. Denaro, stiamo parlando no, di ma non denaro, è di vil denaro pubblico però, caro. Non è un coglione privato che la paga per dire le sue fregnacce, che andrebbe benissimo. Se un privato la pagasse per dire le sue fregnacce, sarebbe ma meraviglioso. E io sarei il primo. Con chi è finanziato. No, sto lei siccome lei prende soldi pubblici, siccome lei prende soldi del pubblico, ci deve rompe sempre i coglioni agli altri, ora ci deve dire amico, quanto le viene in tasca, caro amico. No, ma lo dica lei. No, siccome peraltro i soldi sono presi da un fondo che si chiamano interventi a sostegno dei minori. Vabbè, ma quello chi se ne frega. Dai, allora, fai una siccome col sono soldi tolti al sostegno dei minori e dati forse a un minorato, ma, evidentemente. Ma guardi, questa è l'unica deduzione amico, che uno può fare. Guardi, e allora lei, le richiedo gentilmente. Ho capito la sua tecnica freudiana. Quanto prende le categorie che quanto, solitamente sì, vede riflesse vero, nel suo sì. specchio. Però in tutto questo, detto, quanto le rimane in tasca, visto che parliamo allora, di denaro pubblico? Rispondo, se si perfetto. Placa e non si ingaglioffisce, lascia parlare anche ecco. l'altrui persona, le rispondo. Dimmi, lo spettacolo di Bibbiano è una denuncia dei fatti vabbè, di Bibbiano. Ma questo chi se ne frega? Questo vabbè, chi se ne frega? Per me può essere anche mio, di Bubù, non no, c'è problema. Parte dal mio libro, il nuovo vabbè, ma qual è il punto? Quanti la marchetta? Quindi il comune di Siena ha fatto una marchetta al suo libro, no, giusto? Perché, guardi, se lei leggesse i libri potrebbe trarre anche giovamento. Ma io li leggo, ma quando ho presentato mi i miei libri non mi sono mai fatto pagare con i soldi pubblici. Questa è la differenza tra me e lei. Ma che c'entra? Quello viene pagato. Io faccio libri che sono sul mercato, vengono venduti sul mercato e non li presento con i soldi del pubblico. Ma caro amico, i suoi libri suppongo siano già andati al macero in blocco, tra l'altro. Ma i nazisti li mandavano al macero. I nazisti bruciavano no, i libri. Guarda, parte esatto. I nazisti, ma però i nazisti li bruciavano. Adesso quanti soldi il vengono? Mio, voglio capire una cosa. Lo trova ancora e viene venduto. Però scusa, vuole rispondere suoi. Alla tua domanda. Vuole rispondere. Quanti soldi prende lei proprio, dal pubblico? Signor Diego Fusaro per questa operazione? In realtà non l'abbiamo neanche ancora. Si farà la divisione fra quelli che partecipano. Quindi 3.000 euro, cioè lei e soci. 1.500 a testa. No, non c'entra nulla soci. C'entrano gli altri che fanno lo spettacolo. Vabbè. Però io voglio capire una cosa. No, ma io voglio capire una cosa. Filosofo, scusi. Fusaro, voglio capire una cosa, come fa prego. Lei ad appoggiare, addirittura definendolo un patriota, il signor Soleimani, ucciso da Trump? Addirittura lei dice, lei dice che sta con l'Iran e Allah lo protegga, lei che esalta Allah che deve proteggere il signor Soleimani. Ovviamente, di fronte all'imperialistico attacco degli Stati Uniti bisogna schierarsi senza se, senza ma, con l'Iran. L'Iran ha la sola colpa di essere un paese non allineato con il nuovo ordine mondiale americano-centrico e di resistere. L'atto terroristico è stato quello Sa cosa vuol dire teocrazia? Vuol dire che il potere è di Dio. E invece l'America è un potere del denaro, se vogliamo dire così. No, l'America è una democrazia. Demos. Mio caro, la democrazia implica una democrazia, non che decidano i mercati. Ah, quindi l'America non è una democrazia. Quindi no. Mercati un cazzo, perché i soldi pubblici li prende lei, io non prendo soldi pubblici intanto. No, lei non si adombri, perché io non prendo soldi del pubblico. No, però non prendo soldi del pubblico. Aspetta, lascia perdere questo argomento. Stati Uniti sia una democrazia o deve chiedere ai tanti senza tetto che muoiono di fame nell'ambito del quello purtroppo ci sono in tutti, ci sono sia nelle democrazie che nelle dittature quello, quindi però quello. Scusi Fusaro, io voglio capire una cosa, ma questo la sarebbe cosa un filosofo. L'Iran è un paese che vuole distruggere Israele, per esempio, ma non solo Israele, cioè vuole distruggere i suoi cittadini, tiene sotto scacco i suoi cittadini stessi, e lei lo considera un paese da proteggere, lei lo considera, lo esalta questo signore come un io patriota. Io esalto tutti i paesi che resistono all'imperialismo a prescindere dalla loro configurazione interna, quindi appoggio il Venezuela di Maduro, la Cuba di Fidel quando era in vita, appoggio la Siria di Assad e appoggio anche l'Iran, nella misura in cui sono paesi non allineati che eroicamente resistono rispetto all'americanizzazione. Glielo vada a dire alle persone incarcerate in Iran. Glielo vada a dire alle persone incarcerate in Iran dal regime dell'Ayatollah Khamenei. Glielo vada a dire all'Ayatollah. A lei, se lei fosse un cittadino di Teheran, l'Ayatollah Khamenei l'avrebbe già appesa per i coglioni, amico, per le robe che dice. L'Ayatollah l'avrebbe purtroppo appesa per le palle, l'Ayatollah Khamenei. Questo è possibile. Urlando, questo è possibile. Urlando non appare più intelligente, mi spiace doverla smentire. Ma le voglio far notare che il suo amico Ayatollah Khamenei, in un programma alla Zanzara in Iran, cosa che non sarebbe possibile avere una zanzara in Iran, ma qualora lei andasse lì dall'Ayatollah Khamenei e proponesse le sue tesi all'Ayatollah Khamenei, nel giro di 45 secondi l'Ayatollah, con lo gesto di una mano, chiamerebbe alcuni dei suoi bravi, la prenderebbe e la sbatterebbe in una delle celle previste in Iran per personaggi come lei. Scusi, quindi ma lei andrebbe in Iran, a sostenere, diciamo, l'Iran contro gli Stati Uniti, andare a fare quelle manifestazioni in foreign fighters? Ci andrebbe, io guardi, sono un uomo di dottrina e di studio, quindi non vado in piazza a manifestare, nemmeno in Italia ci vado. Ciò detto, do il mio sostegno culturale, così, filosofico, pagato dai popoli del comune, che insorgono contro la mondializzazione e l'imperialismo. Senza urlare, che facciamo il punto. Lui dal suo salotto di casa, pagato coi soldi pubblici, dà il suo sostegno all'Ayatollah Khamenei. Se vi sembra normale. Lei ha frainteso tutto come suo solito. Io non do il sostegno all'Ayatollah, io do il mio sostegno a un popolo e a un governo, quello iraniano. Vabbè, uguale, che ha la stessa benemerito cosa. Compito di resistere alla mondializzazione. Ma vogliono distruggere Israele, con la bomba atomica. Quindi un buon motivo per massacrare l'intera popolazione. Nessuno ha massacrato la popolazione, si è colpito alcuna... un capo militare, nessuna popolazione. Si è colpito un capo militare. Si è colpito un capo militare. Vogliamo parlare degli embarghi, vogliamo parlare di quindi l'embargo non è uno strumento utile. Certo che no, l'embargo cioè le sanzioni non sono uno strumento, è uno strumento economico. Aspetti, lei è dalla parte Fusaro, lei è dalla parte delle ritorsioni, cioè se cominciano ad ammazzare qua e là. Aspetta. Fusaro, da Cuba la gente scappa per andare negli Stati Uniti, non c'è il contrario. Non c'è gente che dalla Florida va verso Cuba se non per farsi la vacanza. La gente parte da Cuba e va negli Stati Uniti. Le torna o no, caro il filosofo? Scusi Fusaro, però al di là lei di Cuba, conosce storie diverse. Al di là di Cuba, volevo sapere una cosa. Vedo la bava percolante dalle fauci del Turbo Parenzo. Ma no, plac, uno che dice minchiate. Lei ha mai visto degli americani vivere a Cuba, andare a Cuba? L'ha mai visti lei? Io ho visto cubani che vanno verso Miami. Ma lei non capisce. Scusa, filosofo, lasci stare, ragioni del merito. Fammi dire una cosa, ma fa l'elogio della dittatura, ma io non vedo persone che migrano verso la dittatura. Filosofo, è caputo. Se adesso cominciano ad ammazzare americani in giro, gli iraniani fanno bene o no? Ma ammazzare, non bisogna ammazzare gli americani, bisogna difendersi. Io dico questo, la sola guerra legittima dal mio punto di vista è la guerra di resistenza. Appunto, se cominciano ad ammazzare, cominciano a fare delle ritorsioni. La resistenza dei popoli che hanno tutto il sacrosanto diritto di difendersi e di resistere in ogni modo, anche con la violenza. Come anche con la violenza? Certo, cioè, dunque, se fanno delle ritorsioni adesso contro gli americani, fanno bene, contro le ambasciate, ma eccetera. No. Mi scusi, caro Turbo Parento, se per strada qualcuno le punta il coltello, lei ha il sacrosanto diritto di difendersi. E dunque? Quindi anche i popoli aggrediti, come è stato ai tempi della resistenza italiana, hanno il diritto di resistere in ogni modo. L'aggredito ha il diritto di difendersi. E dunque adesso se l'Iran... Ma chi è che ha aggredito? Hanno colpito un militare. Hanno colpito un militare, non un civile. Caro amico, hanno colpito un eroe che resiste. Un eroe, non capisce, poveretto. Soleimani era un militare. Filosofo, la devo salutare. Saluti il popolo. Un saluti. Caro saluto anche al Turbo Parenzo, nella speranza che maturi un giorno. Cioè, almeno paghi una cena con i soldi pubblici che le danno. La Zanzara. Siete di Varese? Di dove siete? E non vi affrontate con Salvini, merdosi, che siete? Siete merdosi! Fate schifo, merdosi, siciliani di merda! Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Di dove siete? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Di dove siete? Siete di Varese? Siete di Varese? Siete di Varese? Siete di Varese? Merdosi, siciliani di merda! Fate schifo, siciliani di merda, con Salvini, merdosi, merdosi, merdosi, siete di Varese, merdosi, siete di Varese. Io scivolarino, signor Trump, io lo capisco, lei ha l'elezione, vuole fare il bruoro. Rico, ma c'era bisogno di fare questa cosa, signor Trump. Ora, ma sta dicendo vero che sta babbena, tanto le elezioni le vinceva comunque. Ora chi se so fuori, chi se sbatte una mano nel petto come i coinuti se cafuddano con e tompolato sole. Rico, ora con la vacca in mare a chi, signor Trump, lei è caduto una miccia allucinante. Ama bere le cose del sistema del suo muoglio, ama bere le cose a fare, perché un paese ricchio si sta scatenando l'inferno. Parenzo, tu sei contento, tu non capisci un cazzo. Chi sanno nucleare, signor Trump, le italiane hanno i bombe nucleare. Siamo una mia idaco nucleare. State calmi, state sereni. The greatest president that God ever created. Facitevi camomille, pigliatevi Valium, facitevi cannona, come vuole dire? Vavete a essere caime, avete bombe nucleari, noi non c'entriamo un cazzo, ha mancato il bottone e moriamo tutta, ma vi pare che è un gioco, vi pare che è GTA? Ma siete tutte malate, avete tutti problemi. State calmi e rilassatevi, ragionate e parlate, ghiccate i ai, mettate i bombe nucleari a mare. Vate coglionati di cose serie, vate state cominciando una cosa che noi non vogliamo. Ma che? Un solo facete l'usuraio e ne facete l'usura e siamo tutti sotto usura. Ora cominciate con i bombe nucleari. Statevi calmi, pigliatevi a pugna, almeno vi ammazzate e vi spuate, vi ammazzate e vi pigliate a legnate. E stiamo queste bombe nucleari, picciotti. Giuseppe, chi si dice non vero, Giuseppe? Grillino Palermitano diventato pacifista, il signor Grillino Palermitano. Allora, due notizie che molto probabilmente verranno trattate nella trasmissione di stasera, il signor Mario Giordano. Sì, ti dico, anticipiamo subito la scaletta, molto anticipiamo bene. La scaletta. Molto bene, allora, viva. Follia all'ufficio postale, non gli arriva il reddito di cittadinanza, sfascia i locali. È un immigrato, aspetta, il protagonista, no? Assolutamente, aspetta. Ah, okay, mattinata scusami, movimentata negli uffici postali di Piove di Sacco, dove sono intervenuti i carabinieri perché un quarantenne marocchino è andato in escandescenza non ricevendo i soldi. Tensione martedì mattina all'ufficio postale di Piove di Sacco, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver scoperto che non rispettava il reddito di cittadinanza. Lo straniero è entrato all'interno degli edifici e ha cominciato a sfasciare le vetrine e i computer, fino a quando non sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma denunciando il quarantenne, questo signore che non ha ricevuto il reddito di cittadinanza. Una delle notizie principali di Fuori dal Coro del signor Mario Giordano. Cioè, cosa fa? Ricostruirà in studio un ufficio postale? Simulerà una rapina? Cosa farà? C'è il terrore degli immigrati che non percepiscono il reddito di cittadinanza. Certo. Questa è una delle notizie. Altra notizia molto importante in scaletta nella trasmissione di stasera del signor Giordano. Tu hai la scaletta perché ne fai parte nella costruzione di questa. Aspetta, Milano sale sul pulpito durante la messa e bestemmia, arrestato. Ecco. È successo nella parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant'Antonio di Viale Corsica. Il ventenne egiziano ha opposto resistenza agli agenti. Poco prima delle 18 il 113 ha ricevuto la chiamata del è un mattinale della questura, non è una scaletta questa. È un mattinale della questura. Le quali hanno riferito quanto accaduto. Un ragazzo di circa 20 anni si era presentato sull'altare e ha iniziato a dare in escandescenza, apostrofando tutti i fedeli con frasi come siete figli di Troia e andate a fare in culo. Al termine, sempre urlando, è arrivata la bestemmia. Le messe in pericolo, gli islamici mettono in pericolo le messe in tutta Italia. Entrano e bestemmiano. Questo nella scaletta del signor Mario Giordano. Evviva, evviva. Intanto, amico mio, c'è un'altra cosa incredibile. Nei giorni scorsi, cosa è successo? È morto un signore in una battuta di caccia, un assessore di un paese sardo. E questo, naturalmente, è molto grave. Ce ne rattristiamo. Naturalmente, cioè, non è che è stato un incidente che può accadere. Insomma. Allora, un signore che è si chiama Bacco di cognome. Tra l'altro, questo signore si chiama Bacco ed è non so come dirti, è anche un medico legale, fa il consulente anche presso i pubblici ministeri, perché tutti i medici, molti medici legali lo fanno, ed è il titolare di un'azienda, ma lascia perdere, è un medico legale. Allora, cosa ha detto, cosa ha scritto questo signore, che si chiama Bacco, è un medico? A me i cacciatori fanno schifo e non sarò mai dispiaciuto per la morte di uno che per sport uccide e causa atroci sofferenze ad altri esseri viventi. Se avete le palle, mettete in pubblico quello che mi avete scritto in privato, perché questo qua è stato insultato in privato. Sperando in un mondo con sempre meno cacciatori, vi saluto. Cioè, questo qua ha detto che dovrebbe succedere più spesso, che questo signore che è morto, questo cacciatore che è rimasto vittima di un incidente, ha avuto quello che lui aveva riservato a un altro essere vivente. Ogni cacciatore, scrive questo signore, che muore, si illumina una stella in cielo. Speriamo in un cielo pieno di stelle. Cioè, si augura lo sterminio di tutti i cacciatori. Ma lo chiamiamo, questo si dichiara anche vegano, chiamiamolo, dai. Pronto? Buonasera, Bacco? Sì. Chi è? Buonasera, mi chiamo Cruciani, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Come sta innanzitutto? Sto bene. Mi sembra... Immagino ti chiamo per quella cosa lì. Allora, io noto una certa coerenza da parte tua, non c'è dubbio, Tu sei, dal tuo punto di vista, sei coerente. Consideri i cacciatori degli assassini e dunque se qualcuno muore dici, vabbè, cioè, esulti, o no? Le dico da anni, tra un cacciatore e un animale indifeso che deve essere ucciso, io spero che muia il cacciatore. No, però no, tu perché morendo il cacciatore non uccide l'animale. Tu hai scritto, a me i cacciatori fanno schifo, giusto? Sì, esatto, sì. Cioè ti fanno schifo i cacciatori? Sì, esatto, sì. Ma perché, ti fanno schifo? Beh, perché voglio dire, uccidere qualcosa di indifeso, per noi vegani gli animali meritano lo stesso rispetto che merita l'uomo. Sì, no, quindi per me il cacciatore è un assassino. Non si possono mettere sullo stesso piano degli uccelli, un pavone e lo stesso medico con cui stiamo parlando, cioè Pasquale Mario Bacco. O ti senti uguale a queste persone? Noi riconosciamo la stessa dignità agli animali e all'uomo. Qui non stiamo parlando di un animale che attacca un uomo. Qui stiamo parlando di cacciatori che per passare il tempo decidono di sparare, uccidere, trucidare. La caccia. la caccia. Tu posso anche essere d'accordo con te, il maiale non ha la stessa dignità di un essere umano, però l'essere umano non è nessuno per prendere e ammazzare gli animali che casomai stanno accudendo cuccioli o stanno cercando il cibo. Ma la caccia non è una questione di... Ma la caccia, la caccia è anche distrazione, anche gioco, è anche... Ma il gioco uccide gli animali, Cruciani, spero che muori tu, non muore l'animale. Se tu ti devi distrarre, leggi un libro, sono mille cose che puoi fare. Ma non fare. È che me lo devi dire tu che cosa devo fare per distrarmi, scusami. Io posso dire di non uccidere un altro essere umano. Ma per fortuna la caccia è regolata, non è un assassino. Se fosse per te, allora uno dovrebbe andare in galera come se uccidesse un essere umano, come se uccidesse Pasquale o uccidesse Giuseppe. Come no? Certo, stesse pene. Sì. Se io uccido un uccello, vado in galera e prendo gli stessi anni. Ma anche di più di anni, non meno, di più. Perché tu ti stai divertendo. Per me, una persona che esce e spara così all'impazzata contro gli uomini. Ma non è all'impazzata. Ma è tutto legale, ma che dice? Scusi, professore. Cioè, allora, siamo in uno stato, non so, in cui c'è un assassino legalizzato, ma stai dicendo praticamente. Per me i cacciatori devono morire tutti. Morire tutti? Ma non come uomini, mentre fanno quell'attività. No, ho capito, ma io capisco la tua paraculaggine. Tu dici non come uomini, a me non mi interessa se sia X, Y o si chiami. Certo, possono essere dei buoni padri di famiglia, che poi tra l'altro non so che cosa. Ma no, ma è una paraculata. È una paraculata questa roba qua, perché tu dici a me devono morire tutti come cacciatori, però muoiono, punto e basta. Dunque tu ti auguri la morte di tutti i cacciatori, dai, su, si illumina l'estinzione dei cacciatori. L'estinzione. Ascolta, Cruciani, tu puoi odi i pedofili? Beh, tutti odiamo i pedofili, che c'è? Ma è ovvio, ma cos'è che paragone è? Conosci? Tu se devi condannare quanti pedofili, tra virgolette, per bene esistono, buoni padri di famiglia, ottime persone. Allora, io non conosco i cacciatori possono essere persone più buone di questo mondo. E ciò non toglie, voglio precisarlo e me lo devi far dire, che è chiaro che io da medico, se mi trovo un cacciatore davanti, non è che non faccia il massimo per salvarlo, per farlo star bene. Però ci mancherebbe, li odio. Sì, ma ho capito, tu li puoi odiare, ma li hai paragonati ai pedofili. Ma ti rendi conto? I pedofili stuprano i bambini, stuprano i minorenni, stuprano. Cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una roba. Non ho paragonato. Beh, come ho detto no? Che per odiare delle persone non bisogna necessariamente conoscerle. La famiglia di questo qua che è morto, questo assessore, che sente queste parole dicendo che tu sei contento. Ma sono contento per lui. Beh, sei contento, hai detto, si illumina una stella in cielo, questo hai detto. Si accende una stella in cielo. È una mia idea, posso avere le mie idee o no? Per carità, tu hai una tua idea, ma qui siamo aperti. Tu so che sei anti-veganesimo. Ma io non sono anti-veganesimo. Ti metti salami in mano, no. Attenzione, io non è che sono anti-veganesimo, io sono contro le follie dei vegani. A me non me ne frega un cazzo se uno è vegano. Se tu sei vegano, per me va benissimo, tu puoi fare quello che vuoi. Io sono contro quelli che vogliono impedire a me di essere carnivoro. Questa è un po' diversa come cosa. Tra l'altro tu dici che noi siamo delle bocche infami piene di cadaveri. Le bocche infami era riferita a tutte quelle... Ma tu sai, Cruciani, che io ho avuto 120 minacce di morte. Ma non sono minacce di morte vere. Le non vuoi vedere? Non sono vere, ma va bene, per carità, quelli che ti minacciano di morte sono degli imbecilli. Me le tengo, io dico, ognuno deve rispettare, però non mi piace che si strumentalizzi il fatto che io sono un medico, che si dica, io sono vegano, come tutti i vegani del mondo, Cruciani, perché anche se non lo dicono, non c'è nessun vegano al mondo che non gioisca alla morte di un cacciatore mentre sta facendo il cacciatore. Cioè, è perché in quel momento la morte del cacciatore significa la vita degli animali. Tu hai la tua opinione, questa per me è follia. Tra l'altro tu sei anche operatore presso la Procura della Repubblica, cioè specialista in medicina legale, sei operatore presso la Procura della Repubblica. A me non me ne frega niente che tu fai il medico, puoi fare quello che ti pare, ma sei operi anche presso la Procura della Repubblica. Allora, vero, no, non c'entra, quello che io faccio nella mia vita non c'entra. Ma c'entra, sei operatore presso la Procura. Allora, va bene, tu ti auguri la morte di una persona, e però poi nello stesso momento sei uno che si occupa anche di medicina legale presso un procuratore della Repubblica, insieme a un procuratore della Repubblica. E dai, su, cioè, se dovessi visitare il corpo di un coso, il corpo di un cacciatore. Cruciani, quando uno fa il proprio lavoro, fa il proprio lavoro. Quando uno ha un ruolo che se è anche un ruolo. Se io possa scegliere, se siamo io un altro medico, posso scegliere, è un altro discorso. Come gli obiettori per quanto riguarda l'aborto, io posso scegliere, c'è un'altra persona, ma se io mi trovo davanti a una persona che sta male, che sia un cacciatore, io lo curo. Però se potessi scegliere un cacciatore non lo cureresti? Se potessi scegliere, ma non posso scegliere perché io sono un medico e quindi non posso scegliere. Ma tu l'hai mai visto veramente come uccidono? Come no? È divertimento puro, il 99% uccide per divertimento. Certo, assolutamente, è stupendo, è meraviglioso, io lo trovo meraviglioso. Cruciani, allora mi auguro che pure tu ti vada a fare una battuta di caccia con qualcuno che non mi ma perché uno deve deve augurarsi. Tu ti auguri la mia morte semplicemente perché a me piace la caccia. Ma tu dici che è stupendo, ma come fai? Io non mi auguro la morte. Se tu mi dici che è stupendo vedere trucidare. No, trucidare, un animale ucciso. Difesi. Quelli che mangiano la carne, come li giudichi te, Pasqua? Te l'ho detto, delle bocche infami che mangiano dei cadaveri. Noi riconosciamo la stessa dignità a tutti gli esseri viventi. Io tra l'altro sono anche buddista, quindi tu, sono contento quando muore un cacciatore. Vabbè, come tutti i vegani del mondo. Ciao Pasquale, ciao. Ciao. Ciao. La zanzara. Una bottarella alla tabaccaia la darei volentieri. Mi fa ingrifare come un canguro. Parenzo, basta, stai zitto! Dall'anno scorso ad oggi hai fatto una sbolata cazzo a destra che a metà basta. Fai ascoltare i soliti ignoti, no? Tipo Porro, Feltri e tutta la combricola del Blasco. Io dico, per par condicio, ogni tanto fai sentire anche qualche diretta Facebook, che ne so, di qualcuno del Fatto Quotidiano. Quello che vuoi, ma sì, in par condicio ogni tanto, si nota lontano un chilometro che sei un destroide. Mi sono messo 51 giorni per pensare a questa cosa perché volevo esserne assolutamente certo. Ma quando sostieni la teoria di Sgarbi che i pompini di notte sono tutti uguali, e ha affermato con certezza che ha ragione, che è vero, quindi che hai provato, perché sennò non l'affermeresti, tra un uomo e una donna, io onestamente non approvo questa cosa semplicemente per un motivo, perché prima che sia tutto buio c'è una luce accesa e vedo se c'è un uomo o una donna davanti. E onestamente allora a questo punto mi tocca dire che Mauro da Mantova ha ragione quando sosteneva che tu non disdegni transessuali. Quindi alla fine della fiera sei anche tu un gender. Interessante. Allora, se non ho capito male, c'è Fabrizio da Milano al telefono. Che eccoci Fabrizio? Qui, Fabrizio da Milano. Fabrizio da Milano è Fabrizio da Milano, ah, per definizione. Fabrizio da Milano dopato. Che è successo? Dopo qualche birra. Aspetta che c'è un cane, no amico mio, sono in diretta, non passare col cane che lo attacca il mio, dai, porco Adesso... No, non c'è stato. Io non bestemmia, Fabrizio, non bestemmia. Allora, ha tanti difetti, ma non bestemmia. No, ci mancherebbe. Io non credo in niente se non nel Dio Milan, ma anche questo mi ha tradito. Beh, no, comunque, Ibra sarei contento. Ma Ibra, Giuseppe, Ibra è come chiedere a Parenzo di vincere le elezioni con Salvini. Dove vai? Cioè, in che senso? Scusa, spiegami. Se tu metti Ibra al Milan, che è una squadra di merda, è come mettere Parenzo al PD. Sempre zero fanno. Comunque ci sono sì. Poi, allora, a cosa devo caro Fabrizio la tua innanzitutto voglio spiegare no i fan devono sapere, i fan, chi segue questa trasmissione, che è appena uscito dalla clinica di recupero, i tuoi innumerevoli fan che hai, lo sai, non ha cifre, insomma, da eppure mi hanno detto su Instagram si scopa di brutto, ma dove cazzo si scopa, che la più vicina abita a Palermo, dice? Ma che cazzo si scopa, cosa dici, dovete prendere al Maxim, ma no, ma su vai su coso, vai su Tinder, ho un amico mio che fa il cameriere in un ristorante, piace, che su Tinder scopa come vengono a casa mia, poi vengono che vedi la foto con le tettone, bella figa, e poi invece non c'è mai una figa, sono brutte come Parenzo. E tu non, c'hai su, non, c'hai, non sei su nessun social per rimorchiare tu? Su nessuno? No, ma Giuseppe, ma io non ho mica bisogno dei social, perché io guarda che l'ho fatto solamente per veramente per la trasmissione. E no, ma non sei su nessun social di questi, no, qua che servono per rimorchiare, che, Tinder, eccetera. Giuseppe, a Sesto San Giovanni, cosa che io non faccio più, no, a Sesto San Giovanni passa una birra, un pippotto e scopi chi vuoi. Cioè? Questa è la vita di... comunque no, ti stavo questo dicendo, è un involuto, vabbè, proprio, quello che stavi dicendo Giuseppe, che poi dico io una cosa. È un involuto, un involuto vero. Come hai passato le vacanze di Natale, caro amico? No, ma come mi devi spiegare la tua assenza, la tua assenza. A me di Natale non me ne frega un cazzo. Io credo a Babbo Natale che ha la favola di Gesù e tutte le cagate. Io ero da solo a casa col mio cane. Che bello è, che bello. Ma comunque si mette il BEM, io non sono intervenuto per il BEM, ma sai solo perché? Per le pecore, ma che frega, le pecore, ma non no, le pecore queste. Ma mi mettono, che mi mettono il BEM, solo per il rispetto incrociari, però tutti quanti Fabrizio interviene, ho detto, Giuseppe è una persona diversa. Poi quando oggi ho visto che tu fai gli accetto, fai tanto il duro alla trasmissione, ma quando ti torce Parenzello, ti trovi uno come Fusaro, che non sai neanche parlare l'italiano, quali a noi ignorante, non sai neanche che deficiente c'ha la I, ma che guarda, hai fatto una figura, ma dove di merda, ma un errore del correttore, ma della Twitter, dai, siccome l'ho scritto velocemente, e tu hai anche tu i social network, non ricontrollo quasi mai quello che scrivo, perché effettivamente scrivo di getto magari davanti al semaforo mentre sono in macchina, e quindi lo faccio in automatico. Come dire che io adesso bevo una birra quando ne ho bevute 20, ma non dire cazzate. Vabbè, questo non lo so quante ne bevi tu. Io te lo dissi una volta contro la Meloni. Tu sei una rimane persona il che tema, non deve però perdere. Rimane il tema. Rimane il tema. La questione è, la questione è, se a te piace Fusaro, con una persona come me che è fuori da un bar e tutti mi guardano che litigo, ma non me ti guardano pensate, perché sei comunque un disturbato, ti guardano comunque fuori dal bar, comunque perché sei tu, un evidente disturbato che fai uso come di droga, fai uso di alcol e droga, no, come hai sempre dichiarato, perché se faccio uso di bamba divento come Ugo. Ho fatto una diretta con il Brasile che abbiamo spaccato il culo. Comunque, abbiamo fatto una diretta col Brasile, cioè, capito? Il contesto è questo qua, un signore che chiama e dice che ha fatto uso di bamba. Benissimo. Parenzo, no, io non ti ho detto che ho fatto uso di bamba, ho detto che ho bevuto. Ma quando hai fatto uso di bamba? Scusa, ma quando scusami, eravamo rimasti che avevi smesso, invece hai ricominciato. No, ho smesso, a Capodanno, ho gli esami il 3 gennaio, il giudice me l'ha spostato a 15. A Capodanno cosa hai fatto a Capodanno? Non hai fatto uso di droga a Capodanno? A Capodanno no, aspetta, sentiamo. Con rispetto. Oh, aspetta. Allora? Che? A Capodanno eravamo io e mio papà che guardavamo le tue dirette e come mio padre ha detto minchia guarda, ma che dirette che Capodanno era in vacanza, io che dirette guardavi? No, abbiamo visto le tue online. La 8:30 su YouTube e mio padre ha detto minchia Fabrizio, preferisco un figlio come te con tutto quello che ha combinato che piuttosto che essere come Parenzo. Questo ha detto il padre? Sì. Cioè, no, capito, questo è interessante, dice, però scusi, questo è interessante. Intelligenza senza la E, c'è un niño, devi scusi, tornare a scuola. Sì, no, ma mi faccia capire, scuola con la Q, mi faccia capire però, suo papà, sì, rispetto a tutto quello che lei ha fatto, ricordiamolo per il nostro pubblico. Vabbè, ricordiamolo. Sì, allora, ti dico no, ma ricordiamo cosa ha fatto lei, così vabbè, il pubblico lo sa. Di, ma ricordiamolo. Solamente per smerdarti, che mio padre è non un direttore, un ex dirigente dell'Unicredit, quindi se vuole ti ricopre a te e tutti i tuoi amici. No, ma io non sto dicendo questo. Parlare di mio padre che cercavo di capire quello che ci ha detto lei, cioè lei mi ha detto che ha passato la sera di Capodanno a guardare le mie trasmissioni. Perché avevo gli esami il 3 gennaio. Bene, a guardare le mie trasmissioni, già questo mi onora il fatto che lei abbia passato una serata a guardare le mie trasmissioni. Ma era uno scherzo, secondo te io passo con mio padre a guardare le tue dirette? Ma esami di cosa? Spiegami. Ma esami di cosa? La patente, Giuseppe, 3 anni e mezzo che sono senza patente, devo fare gli esami dell'alcol. Ma come senza patente? Alcol, droga, qualsiasi cosa. Per quello mi hanno trovato solo con l'alcol, perché quella sera non avevo trovato la droga. Questo è il problema. Comunque, Parenzo, di questo dice, stiamo parlando. Di questo. Vabbè, io te l'ho detto una volta con la Meloni. Tieniti stretto, Giuseppe. Sì, non sì. mollare sto programma perché contro di me tu sembri un intellettuale. Ma se per caso vai all'area che tira con Klaus David, là il sosia, quello che ha detto fa. Là, la sposa di Mir, quello che adesso si dice Mirko Tamerlino che sembra Klaus David. Sì, ciao amico mio. Ti ho detto, tu fai figure, tu non puoi trovarti contro le persone. Fusaro. Ma quante birre hai bevuto stasera? Ma penso che siamo arrivati a 15 piccole. 15 piccole? 15 ma come cazzo fai? Sera? Come fai a reggere 15 birre piccole? Ma io ho un fisico, io piglio 3 grammi al giorno di proteine animali, vegetali, mi alleno 5 ore al giorno. Fa col mondo, Giuseppe. Ma ok, ma 15. Ma io ti sembro uno dei tossici con i denti spaccati. Io mi alleno 5 ore tutte le mattine. Ma di cosa si occupa poi lui, oltre ad allenarsi? Dico, come ti guadagni da come vivere? Come guadagni? Dice. Io sono pieno di soldi. Pare quello che tu guadagni, potresti guadagnare in 10 ma come fai a essere? Come fai a essere? Mio padre lo guadagnava in un mese. Questo padre, questo parassita. Cioè, l'exo i soldi di suo padre, non i suoi. Con me sei in panchina. Con me sei impazzito. No, ma scusi, ma questo può essere, voglio dire, lei quindi padre, vive sì, con i soldi del padre. No, io avevo un caro, avevo un lavoro, scusami che sto parlando al telefono. Avevo un lavoro. Ecco, ma attualmente lei vive legittimamente con i soldi del padre? No, perché io sono in malattia, perché mi hanno operato all'erna del disco, mi hanno messo le viti. Ma chi quindi se ne frega dell'erna del disco? Deve smettere di fare uso di droga e di alcol. Non ho mai voluto spacciare droga, non ho mai voluto, piuttosto me la facevo, non ho mai voluto fare quella vita. Perché tanti, ma a puttane ci vai ancora? A puttane ci vai? Sono andato al Maxim, soltanto che l'amico sempre con i soldi del padre. Il nostro amico del Maxim mi ha offerto 5 bottiglie di champagne e la prima scopata ce l'ho fatta, la seconda anche, la terza mi hanno portato giù che me l'hanno addormentato. Non ce l'ho fatta neanche sbandato, come povero sbandato, un povero sbandato. Fusaro ti ha fatto fare una un povero sbandato. Sei un povero sbandato. Fabrizio, ti abbraccio, grazie. Ciao, Giuseppe, ciao, presto. Io e te ci dobbiamo sentire in privato. Dai, ciao. però torna all'attacco. Ma come in privato? Ciao, ciao. Ma come, perché senti privato? Questo è il popolo, Parenzo. No, non è il popolo. Non puoi dire che il popolo è questo parassita, certo, che vive con i sogni del padre e si ubriaca. Il popolo non è così. Il popolo è molto meglio di così, dai. No, il popolo. In parte anche il popolo. Ma il no, popolo. Le persone normali che ci ascoltano, quelle a cui lavorano, tu giustamente fai riferimento, non si sfondano di birra e vivono con i sogni del padre. Leonardo, provincia di Foggia, dai. Fra poco ti faccio una grande sorpresa. Un grande imprenditore italiano, fra poco. Dopo l'interruzione c'è un grande imprenditore italiano. L'orario è quello delle puttane. No, un grande imprenditore italiano. Leonardo, provincia di Foggia. Non ci casco più ormai, quell'orario lì è critico. Dimmi Leonardo, dimmi. Oh Leonardo, dimmi. Oh, tu che sta facendo questo qua? Leonardo, con comodo, Leonardo. Rumori, sì, dimmi Leonardo, dimmi. Niente, volevo intervenire sul discorso delle zie lì. Diciamo che anch'io più o meno la stessa cosa, avevo 12-13 anni, c'era la zia, ma era una condizione particolare perché chiaramente ero l'unico figlio maschio in mezzo a tante sorelle di mia madre. E volevo solo dirti che ho un figlio di 19 anni e nel senso che attualmente si è perso un po' questo spirito di cosa? Questa specie di sogni erotici. Ma non si è perso niente, se uno vuole sognare sogna, che vuol dire che si è perso? No, nel senso che si vede troppo nudo in giro, troppo facile. Prima voglio dire, sfogliavamo i postal market, no? E allora? che c'entra con le zie questo? No, con le zie nel senso che c'era più fantasia prima, secondo me. Ah, tu dici prima si sognavano di più le zie, adesso non c'è bisogno di sognare le zie perché c'è troppo porno in giro. Questo è un interessante, una teoria interessante. Fermo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Sono arrivate. La performance è solo l'inizio. Goditi una nuova esperienza di guida. Lasciati avvolgere dall'eleganza dei nuovi interni. Conquistare dal nuovo infotainment con schermo multitouch. E stupire dai sistemi di guida autonoma di livello 2. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Scoprile nell'allestimento veloce Launch Edition. In tutte le concessionarie Alfa Romeo. Fino al 31 gennaio. Dalla squadra del pulito garantito da Chantecler, gli sgrassatori Chantecler. Li usano tutti, funzionano dappertutto. I classici Marsiglia, limone, lavanda, oppure i nuovi con candeggina e con bicarbonato. Qual è il tuo preferito? Chantecler, il gallo del pulito. La zanzara. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà del governo? Chi lo sa? So far tutto o forse niente, coi grillini si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. I'm a vampire. How'd you find her? Like a gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Lo senti chi era la voce iniziale che cantava? Che sarà, che sarà? Beh, insomma, no, è facilmente riconoscibile. No, no, fai un po' se la riconosci, la voce. La voce di una nostra vecchia conoscenza. Paese mio, che stai in rovina. Dai, non puoi non riconoscere. Disteso come un vecchio qua. Abbandonato. Ma è una. Beh, vedi che tra la noia di tutti i giorni. È tragicamente agghiacciante. Sentiamo, ma dove l'ha fatta questa? Beh, se mio, ti lascio e migro anch'io. Ma è bellissimo la composizione. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Ma lei era la stessa di che sarà del governo? Chi lo sa? Ma boh, pazzesco. So far tutto o forse niente. Allora ragazzi, vi presento una persona che sì, è un artigiano. Ho detto prima un imprenditore, ma in realtà è un artigiano. C'è una differenza, naturalmente, ma è sempre nel campo dell'imprenditoria. Che cosa fa? Produce attrezzi, è un artigiano, un falegname di partenza, ma produce attrezzi per sadomaso e bondage. Praticamente è il più bravo in Italia, così si presenta, ma effettivamente risulta anche a me essere uno dei migliori nel produrre attrezzi per feste private ispirate al sadomaso, al bondage. Ci sono delle cose, caro Parenzo, incredibili. Tu non ci puoi credere. La gente cosa si fa fare? La gente cosa fa e cosa si fa fare? Ci racconta tutto il signor, non so come chiamarlo, perché lui è sul sito, è Taixo, scritto T-A-I-X-O. Come ti chiamo, Taixo? Paolo, mi sembra. Come ti chiami? Paolo, Paolo va benissimo, buonasera a tutti. Ciao, ciao Paolo. Ciao, allora, ciao. Tu dove operi innanzitutto? In che zona operi? Io sono di Vicenza, sei vicentino. Sei vicentino e risiedi a Vicenza. Dove ce l'hai questa tua fabbrica, questo tuo dungeon? In provincia di Vicenza. In provincia, cioè hai anche una specie di cosa che affitti, un luogo dove fai le feste, dove la gente può fare... Esattamente, sì, sì, dove collaudo gli attrezzi e dove porto anche a fare delle feste. A fare delle feste. Allora, queste feste praticamente che tu organizzi, partecipi anche, hai qualche ruolo in queste feste sadomaso oppure ti limiti a affittare o produrre degli attrezzi? Poi spiegheremo cosa sono questi attrezzi. No, allora guarda, io quando porto gli attrezzi a noleggio su feste, non qui, anche in tutta Italia, sì, per serietà non gioco mai, controllo solo. Ah, controlli, però, sì, però sei anche uno che gioca, che partecipa. Sono master, sì, sì. Ma sei master, sei master. Cosa vuol dire? Master chef? Cos'è master? No, no, no, no, spiega bene che cos'è un master. Ecco, dai, no, sì, io non so. Un dominante, Parenzo. Ah, mi scusi, un dominante. Un dominante. Cosa fa il dominante? Cosa fa il dominante? Cosa può fare? Cosa? Spiegaglielo, perché queste nozioni di base Parenzo non le conosce. Scusi. No, questa ironia Parenzo può tenersela. Okay. No, no, ma scusa, non conosco allora, il termine. Cosa fa il master? Gestisce gioco, gestisce o una situazione o una persona che fa la parte. Io conoscevo Mastermind, veramente. Ma allora, praticamente il dominante. Il no, dominante... io conoscevo Mastermind, che era un gioco bellissimo. No, ma non devi gioco. Sapere che il master nei giochi sessuali. Capito, è praticamente... io conosco Mastermind, e invece esiste un problema, altro master. Però, scusami, Paolo. Allora, tu sei un master, cioè dire praticamente ogni tanto fai del sesso anche, oppure ti limiti a frustare. Allora, Questa è una diatriba lunga del BDSM. Io per anni non ho mai abbinato il sesso al sadomaso. Solo negli ultimi tempi ho cominciato ad abbinarlo. Tutto cambia? Hai capito? Cioè, perché, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Spiegami. Perché, per esempio, lo abbino, perché per esempio può sottolineare un discorso di sottomissione da parte della rave. Farsi fare un rapporto orale o altro, una volta che lei è legata, è un segno di sottomissione. Sì, sì. Prima non lo facevi, invece. Prima non lo facevo, perché la ricerca del piacere è puramente di testa. Una cosa che uno non prova, non... Cioè, non praticamente prima ti limitavi a che cosa? Cioè, sottomettere, quando... frustare, giochi con la cera, giochi con attrezzi, sì, mollette, sì. Tutto quello che fa parte del corredo di... Sì, non c'era, diciamo, l'atto sessuale vero e proprio, no? Tradizionale, diciamo, che può essere... Esattamente, c'era comunque magari un gioco sessuale verso la donna, masturbarla, penetrarla con oggetti e altro, ma non... la copulazione, insomma. Senti, ma lo slave, noi abbiamo parlato sempre della slave come una donna, ma in realtà può essere anche un maschio. Cioè, certamente. Però certamente. Tu partecipi anche a giochi con maschi? No, perché è un mio limite. Però in realtà dovrebbe essere. Perché è un tuo limite perché sei etero, diciamo. Perché sei etero. Sono etero, sì, non mi diverte. Tutto qua. Non ti diverte avere uno slave maschio. Uno slave maschio. Però moltissimi lo fanno. Senti, io vedo qua sul tuo sito, sì. Ripeto, questo signore, caro Parenzo, praticamente costruisce ed affitta queste macchine che possono essere considerate delle vere e proprie macchine di tortura, giusto? Sì, con tutti i limiti, le modifiche per gioco, Sì, beh, certo, Tu per esempio non affitti né costruisci delle macchine che stringono il collo. Questo niente, è importante. Esattamente. Perché stringere il collo può portare anche alcune volte a delle cose. Siamo pazzi. È la pratica sessuale del BDSM che ha fatto più morte al mondo. Senti, ma perché hai cominciato a fare attrezzi? Che cosa è che ti è venuto in mente? Cioè, tu hai, perché non li trovavo in Italia come li volevo io. Tipo? Non li facevano solo all'estero e facevano schifo, costavano dire di Dio. E ho detto, è possibile che non lo siamo fatto ancora, quindi ho cominciato a farli per me, perché molti attrezzi che io faccio prima non esistevano. Tipo? Che cos'è che non esisteva prima? Sì, per esempio la culla, un attrezzo che io ho fatto in cui la donna, che cos'è? Al momento dell'orgasmo viene dondolata la culla. Esattamente. Ma scusa, come sta la donna in questa culla? Cioè, che forma ha la culla? Stesa e legata. Stesa e legata, una cosa che assomiglia. Legata a una serie di toys, di giocattoli, una che la penetra, sì. L'altra che stimola il clitoride, sì. L'altra stimola ancora i capezzoli. Sì. Vabbè, a me sembra una porcheria generale. Aspetta. E sopra ci sono delle candele che fa cadere della cera. Cioè, questa è la culla. Pure questa la cera, è la culla, cioè, con la cera sopra calda. Esattamente. Scusa, esattamente. Per carità. Possiamo dire a Parenzo che è stato considerato il più bel sex machine al mondo. Ma io però scusate, è molto importante. Però scusate, io non ho nulla contro questo simpaticissimo signore. Veramente sono liberale e libertario ai massimi livelli. Se però qualcuno mi chiede, se libertà mi chiede, tu ti faresti fare queste operazioni e mettere la cera addosso? No, lo riterrei folle, semplicemente folle. E il mio giudizio vorrei che rimanesse. Io personalmente penso che farsi buttare addosso durante un rapporto sessuale della cera calda sia da malati di mente. Ma dopodiché è un mio parere, posso avere questa opinione? Però malato di mente no, ma che c'entra malato? No, ma tu ti faresti mai mettere cruciani addosso? No, della... no, ma sinceramente, che c'entra? Sinceramente, no, sinceramente. Però quelli che lo fanno non li considero malati di mente, sinceramente. Li considero uno che si provoca un dolore è una ma il dolore fa un problema. Spiegaglielo tu qual è il godimento. Tu godi quando provochi dolore, Paolo? No, diciamo che è proprio un piacere, come dicevo prima, di testa. Io capisco benissimo Parenzo, perché non ha questa esperienza, però è corretto anche da dirlo. Te lo dice. Cioè, quindi se uno comincia ad avere quell'esperienza, quell'esigenza, è giusto che provi, si diverte. Chiariamoci Parenzo, non c'è nessuno obbligato. Certo. Chiariamoci nella realtà. Se io stasera tornassi a casa, giudici, avvocati, poliziotti. Gente anche filosofi come Fusaro magari anche ci sono anche dei filosofi che praticano questa cosa, Allora dire che sono tutti fuori di testa, come sta dicendo, cioè, lei li praticano diciamo, con che ruoli, Paolo? Li praticano anche di slave. Anche di slave, gente di tutte le classi sociali, ma è normale, assolutamente. No, ma io non faccio una questione di classi sociali. Senti, la fa questa, no, non dite che è normale, però. Ma no, vi prego, adesso, non dite almeno che è normale. Usciamo fuori è normalissimo. Il suo limite che dice di no. Usciamo fuori da questo discorso normale, andiamo più nel tecnico. Praticamente, una delle tue creazioni, che si chiama Culla, è stata K, però con la K, K-U-L-L-A. È una fuck machine, praticamente. È stata giudicata la più bella macchina da sesso al mondo. La più bella fuck machine al mondo. Praticamente è attrezzata per la penetrazione, lo stimolo del clitoride e lo stimolo anche dei capezzoli, il tutto con l'ondulazione. Io voglio questa macchina qui in studio, caro Parenzo. È troppo grande. Manca solo questo. La vedi, se guardi nel mio sito la vedi. Invece che cos'è il cuneo? Anzi, vedo un'altra cosa. Che cos'è quello fiscale? Il culo fiscale? Il shock L, una cosa incredibile questa cosa qua. È una cosa che ci sono quelli appassionati adesso, sicuramente Parenzo dirà qualsiasi cosa comunque. Il cui godimento è fatto calpestare i genitali. Come è fatta questa macchina? Scusi, questo è un tavolino che si mette, allora lo slave si mette a terra. A terra, sì, sì. E il tavolino si mette a livello delle anche. È un foro apposta in cui esce i genitali. Sì. E la mistress o la compagna di giochi o chiunque sia si diverte a calpestarli. E tu aspetta, perché li chiama giochi una che provoca del dolore? Cosa dite? E poi mi dite che è normale farsi calpestare i coglioni, ma non può essere considerato normale. Parenzo, c'è qualcuno tra i due che sta facendo la figura dell'imitato, e non sono io. Allora, Paolo, però è molto interessante questa cosa. Tu praticamente, no, molto interessante perché tu costruisci. Che cosa in questo caso? Nel caso del choc hell? Costruisco proprio il tavolino, l'ho disegnato, perché è fatto in modo di avere due o tre applicazioni, solo con il pisello, anche con i testicoli. Io disegno tutti i miei attrezzi di sperimento e poi li produco. E praticamente, per esempio, affittare una cosa per quello che si chiama trampling o trampling, come si chiama? Trampling questa cosa qua? Trampling. Non affitto solitamente cose quelle piccole, di solito una serie di attrezzi che affitto tutti assieme per fare delle feste. Tipo che cosa? Come cioè le gabbie? Feste. Le gabbie? No, le gabbie non affitto. Ci sono quali una serie gabbie? Di attrezzi, dalle classiche gogna alle cose di Sant'Andrea. La gogna? La gogna. Quali gabbie? Cosa dite? La gogna, si chiamano gogna, ragazzi. Gogna. Le cose per la gogna. Come viene messa la donna nella gogna? Poi sì, è collo bloccato, col sedere a 90 gradi. Sì, è tutto bloccato praticamente. Poi esattamente, sì. E che tu che cosa che realizzi in questo caso? La gogna. Ah, questa gogna. Cioè, organizza la gogna lui? Organizza la gogna? No, vabbè. Cioè la metti praticamente a pecora, però è bloccata completamente. Con i polsi e il collo bloccata, sì, e anche le caviglie molto spesso. Molto spesso bloccate. E tu realizzi praticamente in che materiali vengono realizzate queste cose? Legno? Legno e ferro. Legno e ferro. C'è un'altra cosa che si chiama cuneo invece, che non è il cuneo fiscale. Che cos'è il cuneo? No. Il cuneo è un attrezzo fatto per chi... Non per so se lo voglio sapere. Che vogliono... usiamo una parola che farà... No, vai. Lo stile Parenzo. Se vogliono torturare i genitali, è proprio slave. Ah. Non ho capito, scusa. Cioè vogliono torturare... Anche qua è una cosa per torturare i genitali, la stessa cosa del choc L di prima. Sì, solo che il choc L si tortura con i piedi, semplicemente. Invece quest'altra è una posizione in cui lo slave è completamente bloccato con i genitali a disposizione. Con i genitali a disposizione di chi vuole, diciamo. Esattamente. Ma tu a cosa hai assistito? A delle cose tremende, cioè a genitali completamente distrutti, no? No, dai, c'è più buon senso di quello che si crede. La gente prova dolore, però un dolore, diciamo, controllato. C'è sempre una safe word, quindi quando si va troppo oltre c'è una parola che blocca tutto. E le parole e le persone sono con molto più di buon senso di quello che potrebbe sembrare. È un gioco. Quante persone, diciamo, tu riesci a guadagnare con questo lavoro di costruzione di questi oggetti per il sadomaso? È un mio secondo lavoro, non guadagno così tanto, però è la passione che sostiene tutto. È la passione, cioè tu sei appassionato di costruzione di attrezzi per i bondage per e per il BDSM. Ma le croci, per esempio, un'altra cosa sono le croci. Sì. Le croci, qual è il prodotto più, diciamo, più richiesto in questo mondo, in questo momento? In questo momento la roba più richiesta sono gli attrezzi per il bondage. Cioè tipo? Per legare, tipo c'è Alpha Bondage, sono strutture a ponte sì, per poter legare, perché va di gran moda illegare. Va di gran moda illegare, capito Parenzo? Sì. E tu che cosa costruisci? Della specie di cose fatte a forma di ponte? Che cos'è questa cosa? Esattamente, faccio la struttura a ponte con dei ganci sopra su cui far passare delle corde. E la gente viene appesa lì? Viene appesa lì, ma c'è proprio un'arte, perché forse viene sottovalutato un discorso. Ci sono proprio dei corsi per rondare, ci sono dei corsi per usare le fruste, ci sono dei corsi per giocare con la sera, dei corsi per giocare con gli aghi. È un po' più serio di quelle cappare. No, beh, assolutamente. C'è per esempio anche una fuck machine che si chiama Crudelia. Crudelia. Sì, esattamente. Che cos'è Crudelia fuck machine, Parenzo? Allora, Crudelia fuck machine praticamente è una fuck machine che si usa su una persona seduta, in questo caso. Sì. Fuck machine significa che c'è sempre tranquillo. Allora, fuck machine, cioè, come stai seduto te adesso? C'è sempre un fallo che praticamente fa avanti e indietro. Pensa che a modo di stantuffo, a modo di stantuffo. Esattamente, con velocità e profondità regolare. Ma in questo caso, se è rivolta all'uomo, c'è anche un attrezzo che si chiama Auto Blow Job. Praticamente mima automaticamente il rapporto orale. Mima il rapporto orale. Lui pensa che genio italiano. Nel retto, se è un uomo, c'è uno che ha questo attrezzo che gli fa un rapporto orale. Davanti. Esattamente. Tutto meccanico. E in questo caso le altre non agiscono, non fanno niente, cioè si mette in moto questa fac machine. Molto spesso viene mostrato lo slave, semplicemente, non si fa altro. Ah, viene solo mostrato lo slave in questo caso. Lo si posiziona e viene mostrato. Pensa Parenzo in questo messo in questo attrezzo, messo in questo attrezzo. È una ipotesi assoluta. Messo nella sopra Crudelia, sopra Crudelia, messo lì. Dei nomi terribili peraltro sta roba, sta giocando. Ma questo è un genio, posso dirti che è un genio. Che a casa mia quando mi dicevano andiamo a giocare, in realtà, ma per carità, ma siamo sbagliati noi, mi rendo conto. Però c'è anche la ruota, giusto? C'è anche la ruota. Anche la ruota panoramica, cos'è la ruota? Ecco, spiega Parenzo in conclusione, cos'è la ruota? Cos'è? La ruota è una ruota esattamente dove viene fissato, bloccato una persona. Sempre bloccato, sì. E che fa? Questo è un frontale che è di Siena, per essere frustato, per essere... D'accordo. Cioè uno viene bloccato con una ruota e poi viene girato e si può fare anche qualsiasi cosa in quel momento, cioè si può scopare. Sì, molto spesso per esempio ci sono anche dei rapporti orali verso la donna, una volta che è girata sotto sopra. A testa in giù, quindi, diciamo, a testa in giù. Certo. Tu li fai, hai praticato queste cose? Certamente, questo qua tutte le praticate. E a piede libero ancora. C'è l'ultima cosa da chiedere qua. Alle ultime lezioni chiederebbe Parenzo in questo momento. Sì, esatto, sì. Lei per chi ha espresso la sua preferenza? Trovo talmente stupida questa domanda che fa Parenzo tutte le volte. Però mi serve per avere un quadro, guardi, sia gentile. Per fare rabbia direi che ha votato PD, ma non è vero. Chiaro. No, ma sinceramente, lo dica lei, per chi ha votato? Mi fa piacere, veramente. Perché non le do questo contentino. No. Dai, contentino, non ha votato per il PD né per Più Europa, diciamo così. Sì, chiaramente. Okay. Allora Paolo, quante persone ci sono in questo mondo? Sì. Secondo te, a occhio e croce? Molte più di quello che si pensa, sa? Ma perché anche... le feste sono sempre di più, sempre molto numerosi, sono molto curiosi. Ma infatti è vero, i sovranisti hanno la maggioranza, questo non c'è un po' di dubbio, infatti. Molto di più di quello che si pensa, poi pratica esattamente bene o da tanto tempo, siamo in pochi, ci conosciamo più o meno tutti. Sì, tutti. Però negli ultimi anni, guarda, per quanto mi dispiace dirlo, da quando ha fatto quel film lì, quale film? Quando le sfumature. Lì ha dato un po' un input, ci sono molte più persone di prima, ma... Non particolarmente esperti, esperti curiosi, improvvisati, però... Ripeto, ci sono anche persone che fanno dei corsi e tutto quanto. Va bene, ciao caro, ciao, a presto, grazie, ciao. Voglio una fuck machine qui. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Oh. E poi dite, perché siamo, ma che sei? Che sei pagliacci siete tutti!